Roberto Di Varese, cambia, metti sulla Zanzara, vai là, veloce anche, vai sulla Zanzara, tu devi ascoltare quei programmi lì, non ascoltarmi, te lo ordino, è un mio diritto, ho il diritto di non essere ascoltato da gente come te, ho il pieno diritto, vai sulla Zanzara, vai! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Io non so quello che è successo a Napoli oggi, non lo so nei dettagli, chissà qual è la verità, perché ha sparato questo carabiniere, se ha sparato accidentalmente, come dice lui, se ha sparato intenzionalmente, non lo so. So solo che questo ragazzo che è morto, e per carità, ovviamente siamo dispiaciuti di quello che è accaduto. Beh, però erano in tre sul motorino, caro Parenzo, in tre sul motorino, di cui almeno uno un pregiudicato, c'era uno che doveva essere domiciliari e poi era scappato dai domiciliari per vari reati. Non si sono fermati a un posto di blocco, sono stati inseguiti, uno poi ha sparato, è partito un colpo e quel ragazzo è morto. Voglio assolutamente dire che se ha sparato intenzionalmente ha fatto bene, Allora, questa famiglia, la famiglia di quello che è morto, ecco. Si chiama Bifolco, i signori Bifolco. Vabbè, adesso lasciamo perdere le ironie, i commenti, sì, sulla, eccola, commenti. Bifolco. Okay. Senti che dice una cugina sullo stato camorrista, senti. Ha fatto un abuso di potere in questo momento, a sparare contro un sedicenne che non ci ha fatto niente. Sono loro i primi camorristi. La camorra non avrebbe mai ucciso un sedicenne, la polizia sì, una vergogna, uno schifo. Cioè la camorra non avrebbe ucciso un sedicenne, loro sì. Ecco, questa è una cazzata, cara amica Bifolco, cara cugina Bifolco. Questa è una minchiata, la camorra ammazza, lo Stato non ammazza, cioè può ammazzare in alcuni casi, capito? Signora Bifolco. Vabbè, poi alcuni sono, per carità, sicuri. È stato un omicidio, l'hanno sparato. Chiaramente i familiari, poi, per carità, cioè, che si deve fare? Di fronte ai familiari non possiamo dire niente, uno potrebbe dire tante cose. Scegliamo per il momento, alle 18.35, di non dire niente. Ma è chiaro che lì, cioè, quando uno va in tre sul non è l'Italia, capito? Cioè, nelle altre parti d'Italia, non è che a Milano io vedo gente in tre sul motorino di cui uno pregiudicato. Questo si può dire, Parenzo, o no? No, ma attento, ma è tutto, su ricostruzione perfetta, ma in più, senza documenti, e anche questo diceva bene. Allora, questo mi pare normale, se uno è pregiudicato, senza caschi. No, ma tutti e due, senza assicurazione, ovviamente diceva bene. Sì, perché devi fare l'assicurazione, sei un pregiudicato, che ti frega, sì, di fare l'assicurazione. Quello è minimo, senza dovete, senza assicurazione, sì, senza casco. Ma noi, forse, il minimo, noi lo diciamo però così, come sì, ma non è che la gente, tu vai a Treviso, a Milano, a Bologna, non è che la gente tre sul motorino di cui con pregiudicati senza documenti, attento, cioè, non è normale. Senza il casco poi, attento. Quello anche là è minimo. È un altro Tommaso Bifolco. No, ma sono tutti dettagli che però sai, messi insieme sono inquietanti. Se poi qualcuno dice la camorra non uccide, lo Stato ci uccide, che è la roba abbastanza dai secca. Su, dai. È un ragazzo d'oro, 16 anni, bellissimo come il sole. Ha sfortuna per farsi un giro su un motorino. Hanno sparato, è stato commesso un omicidio. No, che dicono, ma è caduto per l'inseguimento, l'hanno speronato e l'hanno poi sparato. Sì, ma non è che andava a farsi un giro sul motorino. Cioè, adesso va bene tutto, ma non è che uno dice si va a fare un giro sul motorino. No! Non è un giro sul motorino, era con un pregiudicato, forse anche l'altro era pregiudicato, cioè non è vado in giro sul motorino, in tre con i pregiudicati, dai, su. Poi per carità, quella avrà fatto una cazzata il carabiniere, però stiamo calmi. Adesso adesso non si può nemmeno criticare Renzi, passiamo ad altro. Lo hanno fatto, si sta svegliando un po', un po' di tu opposizione. Vuoi parlare della signora De Usanio, forse? No, no, la signora De Usanio, no, quella, la signora De Usanio è importante. La signora De Usanio. Io pensavo vuoi legare la battaglia contro Renzi della signora De Usanio. No, no, la signora, no, De Usanio su internet, su Facebook, c'è una foto col coltello in mano che se lo punta alla gola e dice che dice Renzi per una cosa contro Renzi. L'Italia, sì. La polizia, la carabiniere, eccetera. Sì, sì, sì. Cioè dice vaffanculo a Renzi in sostanza, col coltello puntato alla gola sullo sciopero dei poliziotti. No, io parlavo dell'opposizione interna, quella che per adesso sembra un po' silenziata. Senti cosa dice la Bindi, per esempio. È tornata a parlare la Bindi. Tornata a parlare la Bindi. La Bindi, amici miei, non dico niente. È tornata a parlare la Bindi. Senti sulle ministre, senti. Penso che le donne ministro siano state scelte anche perché erano giovani e non solo perché erano brave, ma anche perché erano belle. Forse possono rifiutare qualche intervista sul personale, non farne una in più sul merito del loro lavoro. Vabbè, poi D'Alema, non conosciamo gli accordi con Berlusconi. Noi oggi discutiamo di riforme fondamentali della Costituzione e della legge elettorale sulla base di un accordo privato tra il nostro partito e Berlusconi, di cui noi che siamo membri della direzione di questo partito non conosciamo i termini. Santo Versace, imprenditore, famiglia Versace, calabrese, appoggia la nostra battaglia, la nostra grande campagna insieme a Vittorio Sgarbi per sequestrare i bronzi di Diace e portarli a Milano all'Expo. Con i militari, con la polizia, con i carabinieri, non mi interessa, un grande treno che deve attraversare la penisola, con esposizione. Treno, per forza. Sì, sì, treno, come faceva il Duce, no? Treno, non perché il Duce. Ma come il Duce? Sì, treno che attraversa tutta la penisola con i bronzi di Diace dentro che vengono ammirati in tutte le province italiane e poi arrivano a un certo punto il giorno dell'inaugurazione dell'Expo a Milano. Pensa che cosa bella, meravigliosa. Non stare lì a stagnare in Calabria con pochi visitatori. Versace. Sono sempre stato favorevole al fatto che i bronzi, se ci sono tutti gli accorgimenti tecnici, si può fare, è chiaro, si spostino, ma i bronzi di Riace dovrebbero portare un sacco di, dovrebbero muoversi, visitare il mondo, girare e portare alla Calabria un sacco di ricchezza. Poi ha detto che bisogna chiamare anche l'esercito, l'esercito, che non fa poco in Italia, prendessero i bronzi che sono nostri, non dei calabresi, e li portassero su, dai, campagna che trova l'appoggio di Versace. C'è anche l'esercito per questo, che ha poco da fare in Italia. No, io non vado in prima linea perché ormai sono fuori, mi hanno messo nella riserva, però si va che è giovane e ha le forze per andarci, però gli do il mio assenso. Oh ragazzi, qualche associazione gay si incazza perché la RAI trasmette un concerto di Albano, tu ti rendi conto, no? L'amico Mancuso, presidente onorario dell'Arcigay, si arrabbia perché dice, io non vedrò il... A parte uno potrebbe rispondere chi se ne frega, il concerto di Albano su Rai 1, beh, perché Albano è un ammiratore di Putin. Beh, io fossi un ucraino residente, perché? In Italia. Ma chi? Ma perché uno non può dire, Albano non può dire che ammira Putin. Adesso siamo arrivati alla follia che uno non può dire che ammira Putin. Cioè oddio, Albano non può dirlo, dire però, che ammira Putin. Però ha distrutto per me la sua storia canora. Ma questo sono... Ma perché ha distrutto la storia? Per Albano me. Ha detto che posso ammira Putin per perché dice che l'Ucraina è russa. Dice che Putin fa bene, che è amato dal suo popolo. Certo, prende anche i soldi Albano, 50.000 a concerto, appunto, quello che ha detto, 40.000, ma quello là lo appunto dice però. E dice che ammira Putin. Adesso è un delitto dire che uno ammira Putin. No, non in Italia è un delitto, amico mio. Dai, però, smettila però su con questo politicamente corretto, con queste cose banali. Uno può dire tranquillamente che ammira Putin senza essere attaccato dalle associazioni omosessuali. Difendi Putin anche tu. Ma guarda, mi viene voglia di difendere Putin. Guarda, anche mi viene voglia di difendere Putin. Anche tu difendi il criminale assassino. Ma bravo, quale? Difendi Putin. Buon anno, di qualcosa a Parenzo sul criminale assassino, su, dai. No, sembra di sparare sulla Croce Rossa. Putin, io lo voglio cittadino onorario di Borgosesi. Ho fatto la domanda, però cittadino onorario. Ma scusa, Gianluca Buonanno, europarlamentare della Lega. Io dico una cosa, ma hai parlato con qualcuno per questa cittadinanza onoraria di Putin? Sì, con l'ambasciata, abbiamo proposto già con una lettera. Con Darek Stogna l'hai parlato, con Togni, no. E con Moira abbiamo Orfei, fatto con l'ambasciata e quindi attendiamo fiduciosi in una risposta positiva. No, io la penso come Albano. Chiedere, scusa, cioè la pensi come Albano in che senso, scusa? Devo chiedere scusa a Moira. Aspetta, Parenzo, mamma mia, povero Parenzo. Mi sembra, sai che cosa? Quando vado nella casa del riposo, no? A Casa Serena a Varallo, piuttosto che a Sant'Anna Borgosesia, ci sono purtroppo i malati di Alzheimer, ci sono tanti che hanno delle difficoltà. Ecco, Parenzo mi sembra un giovane vecchio con dei problemi del genere. Sì, ma perché non lo ospiti ogni tanto? Se avesse dei problemi lo vuoi ospitare dalle parti sue? Sì, guarda, io lo porto, se vuoi venire a Borgosese ci sono le aiuole da pulire, da sistemare, sì. Pulizia dei marciapiedi, tagliare le siepi, io gli do anche qualche soldino. Cioè li toglie perché agli indiani? Perché è scontato, Parenzo. Dice sempre le stesse cose, poverino, c'è il disco rotto nella schiena, poverino. No, perché ammiri Putin? Volevo chiedere scusa a Moira Orfei e a Darek Stogni, che sono due amici e due persone serie, perché ho detto che le ho paragonate, chiedo scusa, non vorrei averla quella da Moira, che è una persona serissima. Cioè perché hai paragonato Bonanni? Parenzo, vieni a Borgosese che ti adottiamo, dai. Io manca il verbo, vieni. Piuttosto che venire a Borgosese mi taglio le vene delle mani, guarda. Ma perché non vuoi andare a Borgosesia? Non ho capito. Ma viene a Borgosesia? A me fa schifo. Ma dai! Di andare in un comune che è governato. Ti mettiamo con un elastico sul ponte di Aranco, no? Sul ponte di Aranco, ti metto un elastico e ti faccio andare giù nel Sese. Ma ti dico di più: per me Borgosesia non esiste. Forse. Ti lo tolgo dalle cartine, ho degli Atlanti a casa. Forse. Dalla cartina geografica, io lo tolgo. Tolgo Borgosesia. No, senti, mi piacerebbe vederti invece in mano agli islamici, Parenzo. Voglio vedere poi cosa dici. No, beh, tagliare la gola. No, quello mi auguro di no, io non auguro nessuno, però no, vederlo in mano agli islamici secondo me capirebbe che aveva ragione Buonanno e non certo Parenzo. Senti, ma io non ho capito, Putin secondo te perché è un grande leader? Cioè cosa ti piace? Ti piace quando per esempio fa il macio, cioè in quelle foto là col petto all'infuori? Beh, cioè ognuno fa come pensa, ovviamente, e come crede. No, se io penso a Obama, Nobel della pace, che va a bombardare la Siria, Putin, allora cosa dovrebbe essere, visto che ha salvato dal bombardamento la Siria? Ah, e che dovrebbe essere? Ad esempio. Che dovrebbe essere Putin? Cioè Putin oppure secondo... Obama, Nobel della pace, che respinge i clandestini messicani, compresi i bambini, mandando l'esercito. Ma questo è poi, buono per se te, noi però. Lo facciamo, siamo tutti razzisti. Cioè, secondo te Putin merita il Nobel per la pace? Come? Secondo te Putin merita il Nobel per la pace? Non ho capito. Vabbè, potrebbe anche essere, se gliel'ha dato Obama potrebbe prenderlo anche Putin. Ma che cosa pensi? Cioè, secondo te un leader, che tipo di leader è? Cioè, secondo te è veramente cioè lo vedresti dove? A capo di che cosa? Guarda, secondo me, allora, l'Europa, io l'altro ieri, ho detto al ministro che era lì in commissione industria, che si deve preoccupare di incominciare a ordinare qualche centinaio di milioni di sacchi a pelo, perché se continuano a tirare la corda con la Russia, oltre all'embargo che abbiamo avuto per cui danni all'agricoltura oltre 200 milioni di euro, tanto poi paga sempre Pantalone, perché i soldi per rifinanziare gli agricoltori li prendono da dove? Sì. Ovviamente dalle tasse, compresi i sacchi a pelo, perché se tirano la corda Putin potrebbe giustamente anche dire: sapete cos'è la novità? Che adesso il gas non ve lo do più, e allora? Tutto è finito, andatevi a scaldare da un'altra parte. Questo potrebbe essere una cosa. Allora, la Russia è una risorsa, non è un problema per noi. E invece lo stanno facendo diventare un problema perché pensano... Sì, ma tu hai Putin, c'hai ancora quella foto lì nel tuo ufficio? No, certo, sia nel mio ufficio a Borgosesia che nel mio ufficio a Bruxelles. E pure a casa, a Roma. Ieri è venuta la televisione russa, il terzo canale russo, mi ha fatto una intervista che andrà in onda sabato prossimo. Dove è venuto con un regalo, mi ha portato una foto originale di Putin. Cioè ti hanno intervistato alla televisione russa, com'era? Sì. NTV? Sì, NTV, che programma va in onda sabato prossimo nell'orario di maggior ascolto. Che programma russo? È? Come si chiama? Uomini veri. Come Uomini veri il programma? Chiamano uomini coraggiosi, intervistano e hanno scelto me perché io in Europa ho una voce contraria rispetto a tutti gli altri che invece dicono contro, cioè, Putin. Spiegami un attimo questo format, cioè, questo programma si chiama Uomini Veri, questo programma. Sì, perché sarà un programma di omosessuali russi clandestino, figurati. No, ti piacerebbe, Parenzo? No, è sicuro, vedrai che è così. Sei finito lì. Adesso vi dico anche questo, sapete, vi ricordate che c'era quella cosa dei baci, che volevano fare la manifestazione? Sì, beh. Domani a Borgosese ci deve essere la manifestazione di tutti i culattoni d'Italia e compagnia bella, che non vengono perché hanno desistito mentre io faccio la festa della salamella, del wurster, dei finocchi e della patata. Cioè non vengono, tu li chiami culattoni innanzitutto, i culattoni. Beh, ma ci sono quelli, sono omosessuali. Ma tu i culattoni li prenderesti a lavorare con te? Ma ci mancherebbe, basta che lavorino. No, ma c'è in un tuo a fare il collaboratore a... No, ma adesso vi dico la democrazia di questi. Sì. Hanno messo in giro il mio numero di telefono e le mail per fare domani in pratica mandare in tilt il mio telefono, quello che c'è sui muri, il numero dei muri della città, di telefono, per fare in modo di far saltare tutto anche sul mio computer. Ma guarda, questa è la democrazia di queste persone, dei comunisti travestiti che a loro piacciono tanto. Più grande in Italia il partito di Putin. Il parlamentare europeo Gianluca Bonanno ha la foto di Putin ovunque, è stato intervistato dalla televisione russa come uomo vero perché difende Putin e vorrebbe Putin dove? Dov'è che lo vuoi Putin? Che ne so, a capo del mondo, a capo dell'ONU, a capo di che? No, intanto che la Russia entrasse nella Unione Europea, vabbè, allora sarebbe tutta un'altra cosa. E poi al posto di Juncker sarebbe mica male. Cioè a capo dell'Europa, dici te. Putin, ma certo, ma dovrebbe essere lui quello che guida l'Europa, non cioè la meglio Merkel, lui di Renzi, diciamo, per esempio. Vabbè, adesso stai facendo un paragone, come dire un Dober ma con un chihuahua. Cioè addirittura c'è un genio, no, un genio e un, certo, è un dilettante, certo. Dice, un dilettante. Scusami. No, Renzi è simpatico, però finisce lì. No, siccome l'uomo degli annunci sarebbe nuovo, mai buongiorno. Volevo rassicurare Bonanno, siccome dice che gli omosessuali avrebbero messo e divulgato il suo nome, l'altro giorno ero nei bagni della stazione Termini, c'era il suo numero di cellulare, dice se vuoi un po' di allegria, Bonanno fa giochi di fantasia, e c'era il suo numero di telefono, nei bagni della stazione Termini di Roma. A proposito di questione di omosessuali, io una cosa che veramente ho trovato pietosa cos'è? È la questione di luxuria con la Meloni. Che tu chiami culattoni, poi attenzione, tu li chiami culattoni. Però come chiamarli? Cioè, Che ne so, culattoni che non so, la gente comune non è che dice omosessuali. Cioè, come dice? È un finocchio, è un culattone. Frocio. Guarda, sì, cioè, c'è di tutto, no? Però loro si offendono e non puoi dire assolutamente niente. Però ad esempio luxuria, la transgender eccetera, è riuscita nella bella impresa di tirar fuori questioni private della Meloni, il padre che non l'ha c'entrano abbandonato. Niente e che ha fatto una figuraccia, perché non è che loro possono offendere. Io non ho capito perché, poi... perché che cos'è che non ti va bene del fatto che un bambino stia con due donne o due uomini? Scusami. Ma come può crescere un bambino con due uomini o con due donne? Cioè che gli succede a sto bambino? Spiegami. Che ci succede? Che cresce ovviamente deviato, perché un padre e una madre per farli crescere, poi se nella vita il padre e la madre non stanno più insieme è un altro paio di maniche. Cioè però, deviato in che senso? Cioè che guarda i due, scusa, che entra dentro la stanza, toc toc, che succede? Guarda due uomini e due donne a letto, dici? Ma tu lo faresti crescere tuo figlio con due uomini o con due donne? Vabbè, che c'è quello? Mio figlio lo cresco io. Forse Parenzo è cresciuto così da come parla, però per il resto non mi sembra. Guarda, questa è una battuta di cattivo gusto, ma te la passo perché sei Bonanno. E quindi vabbè, poverino, sei fatto così. Il fatto è che ormai vendono anche nei negozi i pupazzi di Bonanno, tu non lo sapevi, sono andato a trovare male, sono contento. Un giocattolo per la figlia, l'altro giorno sono da Roma in un negozio. Aspetta. Devono fare la pupù, mettono la faccia di Parenzo, perché sennò non riescono a andare. Ma non ho capito che cosa hai visto, Parenzo, non ho capito. No, c'era un commesso che mi ha detto: "Ah, Parenzo, come sta? Cominciai?" Dico: "Sì, sta bene, in vacanza." "Cosa vuole?" Dico: "Vorrei un giocattolo." "Ah, vicino, ne abbiamo uno nuovo, guardi, è un pupazzetto." È un pupazzetto bellissimo di un deputato, si chiama Buonanno. Che bello, mi ha dato questo pupazzetto che praticamente tu basta che lo tocchi e ti fa un sorriso ebete e si muove avanti e indietro. Io ho visto nel negozio di animali delle sabbiette lì per i gatti, c'era la foto di Parenzo. Hai capito? Io non ho capito una cosa, però a Napoli che bisogna fare, Gianluca? Piazza Pulita. Ah, ecco, adesso ti dico di Napoli. Senti questa che sembra una barzelletta. Ministro Guzzi, l'altro ieri in Europa, sempre con Ministro Industria. No, però a Napoli, che succede a Napoli? Aspetta, dice una cosa di Napoli e dice, allora, nel nostro programma a novembre ci sarà l'incontro ufficiale a Napoli per le piccole e medie imprese. Quando ho finito di parlare, ho detto, mi scusi, ma dire piccole e medie imprese e farla a Napoli, come dire, andiamo nel Sahara e parliamo di barche o parliamo di piste da sci, perché non so dove sono le piccole e medie imprese a Napoli. Cioè, Napoli ha la pizza buona, può avere la cultura, eccetera, ma certamente non possiamo parlare di... Beh, ho capito, ma che bisogna fare? Che bisogna fare con quello che succede con la gente che va in tre su motorino, pregiudicati, cioè esercito, tabula rasa, cosa? Commissariare tutto, cosa? Bisognerebbe commissariare tutto, mandare l'esercito e riprendere dalla prima elementare e far capire come si viaggia. Cioè Putin ci vorrebbe. Sì, Putin io mi offro come suo secondo. Ma tu sei praticamente al servizio di Putin in Europa, diciamo la verità. Ma io come politico, secondo me è il numero uno al mondo oggi, quindi segue i migliori, non certo i peggiori. Ma sei anche pagato da Putin magari? Ma figurati, adesso pagato, no? Ma no. Certe persone hanno il coraggio di dirlo, ce ne sono tanti altri che non hanno il coraggio di dirlo, ma lo pensano. Questa è un po' la realtà. Però io credo chiedesse... che Putin sia veramente una persona. Tra l'altro anche sulle questioni islamiche, parliamoci chiaro, ci dovrebbe essere la legge del taglione. Cioè? È ora di piantarla lì. Vedere questi islamici che aveva ragione la fallace, cioè gli islamici non cambieranno mai, sono indietro di mille anni, siamo ancora all'epoca delle crociate e quindi... La legge del taglione che vuol dire, Bonanno, scusa, concretamente? Dire che se loro ammazzano qualcuno bisogna fare altrettanto. Cioè bisogna ammazzare gli occidentali, l'americano e gli ha messo la testa sulla schiena. Sì. L'avete visto? Noi che dobbiamo fare? Dobbiamo prendere un islamico e ammazzarlo, scusa. No, la legge, questi capiscono solo quello, perché appunto. Abbiamo visto anche ad esempio in Libia, la cosa agghiacciante che hai in Libia detto, in altri posti, hanno bisogno solo di tiranni, perché solo così rigono. Cioè, per esempio, in Parlamento abbiamo un islamico, Chauki, bisogna cacciarlo dal Parlamento, non ho capito, un islamico al Parlamento italiano? No, vabbè, se è votato, ovviamente no, cioè, però che ne so, chiudere le moschee, che bisogna fare? Non si integreranno mai, intanto ammazzano i cristiani, tanto per dire, perché e per te ci vuole la legge del taglione, cristiani, d'accordo. Va bene tutto, e noi gli facciamo le moschee in casa, le moschee bisognerebbe chiudere in Italia, perché sono anche... Chiudere tutte le moschee? E ci mancherebbe, diventano un ricettacolo degli estremisti. Vabbè, e noi facciamo le moschee, quelle ammazzano i cristiani in giro per il mondo, tagliano le teste. In the dark, it's raining in the park, but meantime... Senti, ti voglio dire una cosa, Giuseppe. Sai perché mi piaci? Perché sei pazzo. E il conduttore? Sì. Pronto? Sì. E il conduttore? Sì, è conduttore. Ancora non mi levo dalla testa questo tizio qua che è intervenuto. Ma che fine ha fatto questo? Come che fine ha fatto? È vivo, è vegeto. Ma è perché non chiama più, anziché... Ma perché deve... Belli, no. Riccardo da Roma. Sì. Pronto? Sì. E il conduttore? Ma che hai contro Riccardo da Roma, tu? Scusa, non ho capito. Che hai contro Riccardo da Roma? No, perdi giorno. E gente perdi giorno è violenta. Ma che violenta? Quando mai? Tra l'altro, scusa, il sito fan di Riccardo da Roma su Facebook, il sito, cioè la pagina Facebook... Ho visto che si è mobilitato... Hanno fatto un grande appello per metterti a disposizione una macchina per le tue lezioni di guida, perché tu devi ancora prendere la patente, diciamolo per chi ancora non lo sapesse. No, devo superare l'esame di... Beh, quello, che è quello fondamentale, no, non sapendo tu guidare la macchina, no? Finché si studia, quando si passa al pratico. Buon anno, tu sapevi che non aveva la patente, Parenzo? No. Siamo qua, va bene, non c'è problema. Che stai facendo, Gianlu? Ma Gianluca, lo sapevi che Parenzo non aveva la patente? Ah, non mi stupisco, perché da come parla può andare solo in giro con quelle cose senza patente, com'è che si chiama? I sulchi. I sulchi. Ah, quelli là. Ma sì, no, manco con quelli va, perché manco il motorino sa portare. Una volta il motorino ho rischiato grosso. No, il motorino sì. Ah no, il motorino sì, vabbè, ma comunque Parenzo lo porto in giro io, così la prima curva apro la portiera e lo facciamo scendere. A proposito, ma c'è ancora il poveretto? Hanno fatto un appello ai fan di Riccardo da Roma, la pagina Facebook fan di Riccardo da Roma, per mettere a disposizione di Parenzo una macchina e portarlo magari, no? E poi magari qualcuno ha scritto portarlo in una piazzola buia dell'autostrada e poi carta bianca. No, ma sai, la questione un tizio, è quella, un tizio ha detto non ho il seggiolino. Le elezioni, no, ma ti spiego il problema, poi facciamo finire il delirio di questo poveretto, ma le lezioni di guida costano mezz'ora, io non lo sapevo, infatti da lunedì alle 9, ecco, posso fare questo pubblico appello, da lunedì alle 9 io posso filmare, poi metterò sul sito della Zanzara le mie lezioni di guida. Ma sei uno scandalo, audio. Cioè non ti vuoi manco pagare le lezioni di guida, no, pensi che costa? No, ma stai attento, dai, ti spiego il problema, adesso magari napoletano, squinzi, qualcuno può intervenire, costano mezz'ora, stai attento, mezz'ora 25 euro. Vabbè, non mi sembra tanto la lezione di guida. 25 euro no, mezz'ora. Però sai, amico mio, vabbè, per le tue usanze sì, per le tue usanze sì, calcolando le mie abilità tecniche, diciamo, di movimento, io ne devi fare una decina, diciamo, almeno una decina, giusto? No, molto di più. Che ce ne ma, sono? Ma spendisti 500 euro per prendere la patente, sono, su, se non sai guidare. Almeno, ma se non sai guidare, mica è colpa nostra, mica è colpa mia, mica è colpa di Buonanno, mica è colpa. No, ma volevo fare un appello utilizzando la radio. A chi? Se per caso io posso aprire un IBAN adesso. No, ma non ti dà nessuno i soldi per avere le tue lezioni di guida. No, ma scusa, ma Gianluca, ma ti pare possibile che uno deve dare i soldi a Parenzo? No, ma ti dico che io, Varallo, da 8 anni do un contributo a tutti i neomaggiorenni che fanno la patente se escono e anche dopo un anno non hanno dei punti. Vabbè, ma tu hai fatto gli regalo 150 euro. Ma tu hai fatto di tutto, però non so come c'hai i soldi. Tu hai regali le colazioni. Perché comunque costa molto fare la patente, su questo ha ragione Parenzo. Per un ragazzo giovane, adesso lui non è giovane, ho capito, ma per un ragazzo giovane c'ha difficoltà. Ho capito, ma Parenzo no. Cioè Parenzo si pagasse Parenzo questi 500 euro. Ma Parenzo con tutti i soldi che ha potrebbe prenderne 10. No, ma infatti adesso la prenderò. Dai, ma se c'è qualcuno che vuole darmi delle lezioni di guida e passare un'ora con me, io sono anche a disposizione. Oh, mamma mia. Sì, ma tu prima queste cose devi farli andare sulle giostre, ci sono gli autoscontri, comincia a prendere lezioni, che così non fai danni a nessuno. Ah, le giostrine, tu dici però, quelle. Io non sono pagato dal pubblico per sparare delle stupidaggini come hai sparato tu. Sì, però dici stronzate a raffica. Allora, io sorpreso. Non sono pagato dal pubblico. Ascolta, ascolta però, Giuseppe, volevo dire, prima è andata un po' via la comunicazione, mi hanno detto, volevo dire che io sono per la chiusura di tutte le moschee in Italia. Ma no, era abbastanza chiaro questa cosa. Fino a quando gli islamici non capiscono che è ora di finirla. Dente per occhio per occhio, dente per dente, la legge del taglione, loro fanno così e noi in Italia dobbiamo fare cos'ha. Quando capiranno che è ora di piantarla lì, allora potremo ridiscutere, altrimenti noi, oltre a farci mandare in giro per il mondo come cristiani, costruiamo anche le moschee che diventano ricettacolo dei terroristi. Però scusami Gianluca, ma con i Marò che facciamo allora? Dobbiamo fare la stessa cosa? Con i Marò dobbiamo fare qualcosa, io vi prometto questo, che prossimamente tra una settimana, 10 giorni c'è Strasburgo, il Parlamento Europeo, vorrò fare qualcosa di eclatante in favore dei Marò, perché se l'Europa non è in grado e ha paura di muoversi nei confronti dell'India per quello che sta succedendo, bisogna fare cose eclatanti. Parenzo, hai paura di quello che può succedere al Parlamento Europeo? Cosa succederà secondo questo, te? Volevo capire questo, ma i biglietti sono già in vendita su Ticket Online oppure vai direttamente al botteghino con Moira? No, però l'unico modo per tirare l'attenzione su questi... Scusami, ma i serpenti, c'è l'incantatore di serpenti? L'incantatore di serpenti, c'è o ci sei solo tu che fai la scimmietta e salti nel cerchio di fuoco? Una volta Pennacchi, lo scrittore Antonio Pennacchi, aveva detto che bisogna rapire un imprenditore indiano, diversi imprenditori indiani qui in Italia, e dire vabbè, noi non ve li diamo finché non ci li date i Marò. Cioè questo potrebbe essere occhio per occhio, dente per dente, o no? Possono essere tante cose, però finché noi ci dimostriamo veramente dei segaioli, siamo degli europirla. Cioè, Segaioli e Europirla, benissimo. Sì, ma perché comunque, ma se avessero preso due soldati americani o tedeschi, per fare due esempi, secondo voi dopo 2 anni... Ma per me, guarda, se uno la pensa in un certo modo, bisognerebbe mandare l'esercito, fare un blitz militare. È un uomo pericoloso. Ma ci mancherebbe, qui bisogna picchiare i pugni. Se ci fosse stato Putin, tempo... 15 giorni sarebbero arrivati, ma certo, e Russia erano già in casa, dici. Dopodiché noi siamo stati doppiamente stupidi, perché con il governo Monti sono riusciti a farli venire in Italia e poi li hanno rimandati indietro. Cioè, veramente l'Italietta è la peggiore. Senti, ma tu hai mai fatto un'esperienza con un trans? Ma per amor del cielo. Ma perché? Ci sono tanti italiani che vanno a trans, una bella esperienza con un transessuale. Perché? Cioè, no, guarda, è pieno di italiani che... della natura. No, beh, scherzi della natura, certo. Sono degli scherzi della natura, eh sì. Ho capito, ma scusa, perché lussuria è uno scherzo della natura, non ho capito. Eh beh, nella sostanza sì. Cioè, ma lei sta benissimo così però, cioè... Anche se è contenta lei, e lui, cioè lui. Cioè, chi si è contenta così, io non, a me non interessa, basta, a me non interessa che cosa fa, però secondo me... È uno scherzo della natura. Guarda, beh, nella sostanza, Giuseppe, sì, nell'ordine, questo signore in un'ora di trasmissione ha, uno, dichiarato una guerra santa praticamente e sta scatenando il putiferio, ha detto delle cose di una gravità inaudita, due, ha parlato di transessuale come hai sentito, tre, ha venduto i biglietti anticipati per lo show di Strasburgo senza sapere che c'è già il sold out, perché la scimmietta che salta nel cerchio di fuoco, chiamata Onorevole Buonanno, la vogliono vedere tutti, stanno trattando tutti il biglietto, quindi è un pazzo, va liquidato immediatamente. Le cose che ha detto sull'Islam sono di una gravità inaudita. Quale? Perché inaudita. Qual è la gravità, scusa? Hai detto, perché avere chiudere le mosche, secondo te sono delle cose normali? Sei un delle pazzo. Cose normali. Tu, le moschele, tu, perché i trans, non crescere con due omosessuali o con due trans? E lo faresti tu. Crescere così? Tu vabbè, sei semplicemente... Perché cioè, i trans non sono normali, sono anormali, secondo te. E cosa vuoi dire? Che sono normali? Per me non sono normali. No, ho capito, ma che va fatto con i trans allora? Che bisogna fare con questi trans? Che so... Ma niente, cioè io ripeto, ognuno vivi lascia vivere, sì. Però che si mettono lì ogni volta a fare le vittime, questo non mi va. Dopodiché appena tu dici qualcosa contro di loro si scatena il putiferio e ci avete toccato né qui né là, come si scatena il Putin. Cosa. E invece loro possono dire e fare tutto quello che hanno voglia. Io la penso come Putin, anche sugli omosessuali, cioè a casa tua fai tutto quello che vuoi, fuori stai nei limiti del contenuto. Cioè, non normale, dici nulla, c'è cioè, la propaganda gay, cioè chi parla dei gay va un po' limitato. Cioè, la ma io non so se questa persona può continuare. Che ne so, a il gay village a Roma, per esempio, sì. In questo parco enorme a Roma dove ci sono. Ma chiuso secondo te il gay village a Roma? Io se fossi sindaco di Roma non avrei dato permesso. Dopodiché il governo italiano village. Invece è capace di dare anche 8 euro a tutti i detenuti, perché così vabbè, ha deciso discorso, il governo. Cioè, è tutto un controsenso questo paese. Invece di aiutare la gente per bene. Gli anziani, dare una mano ai giovani, così cosa succede? Stanghiamo le forze di polizia, le riduciamo veramente a 1.400 euro al mese, che rischiano la vita. Ma tu ti rendi conto di quello che hai detto sulla legge del taglione? Ha detto che ci vuole la legge del taglione. Guarda che quello c'è anche nella Bibbia, impara, asino. Sei una persona pericolosa. Asino, devi imparare, leggiti la Bibbia, c'è scritto la legge. Ma i musulmani che sono qui devono avere paura dopo quello che tu hai detto a girare per strada. Devono avere paura perché hai... addirittura, guarda, Oggi una musulmana ha deciso, una musulmana che è consigliere comunale, non so, a Rovereto, ha deciso di lasciare l'Italia perché dice che in Italia non si può stare, perché la minacciano, eccetera. Una tale... Ma sì, ma che torna al suo paese allora, no? Come si chiama? Aisha Mesrar, marocchina di 45 anni. Stanno male da noi, no? Stanno male da noi, ma allora perché vengono? Dopodiché l'altra cosa. Questa sembra ma perché essere stata diciamo che i governi da dove partono sono i veri criminali? Perché tutti quei governi dove partono queste persone li mandano parte, al macello. Sì. Sono loro i criminali, Va bene, ciao Gianluca, a presto. Ciao. Ma come va bene? TG3, titoli, sentiamo i titoli del TG3, grande rumba oggi ragazzi, voglio battaglia, sangue e merda, forza, via, ascoltatori, tutto, intanto TG3, dai. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. A Napoli tre ragazzi in motorino non si fermano all'alto, un carabiniere spara, un colpo accidentale, dice l'arma, muore Davide, 17 anni, la famiglia, è un omicidio. Firmata a Minsk la tregua tra Kiev e i ribelli filorussi, accordo in 12 punti, nessun ritiro ma scambio di prigionieri all'OSCE, il compito di vigilare. Al vertice NATO sollievo per la tregua, approvata una forza di risposta rapida, forse revocate le sanzioni, coalizione di 10 paesi contro lo Stato Islamico. Renzi sullo sciopero annunciato dalle forze di polizia, porte aperte al dialogo ma da alcuni sindacati ricatti inaccettabili. I sindacati delle forze dell'ordine confermano la mobilitazione Alfano, richieste legittime ma i toni sono eccessivi, lavoriamo per una soluzione. Dal forum di Cernobbio, banchieri e imprenditori accolgono con fiducia le misure della BCE, ora tocca ai governi, avanti con le riforme, spread ai minimi. Venite nel nostro comune dove c'è la tassazione più bassa d'Italia, Pollica, l'invito del primo cittadino a 4 anni dall'uccisione del sindaco Angelo Vassallo. Migliore, noi non vinceremo sicuramente noi di 24 mattino, ma io ho un obiettivo, quello di surclassare la zanzara, quindi dovete andare su cuffiedoro.it e votare 24 mattino, va bene? Così gli amici serpenti della zanzara verranno schiacciati sotto il tacco di 24 mattino. Okay. Vabbè, ragazzi, che tristezza infinita questa cosa qua, veramente. Beh, una grande bellissimo. Tristezza. No, ma una tristezza, uno dice non vinceremo, ma che obiettivi minimi, allora, ci sono questi obiettivi giorni a ribasso, bisogna dire che uno punta a vincere, si va a vincere, no, non vinceremo però vogliamo battere la zanzara. Beh, ma qui non stupendo. C'è partita innanzitutto è una non partita, diciamolo subito, è una non partita, poi se la vogliamo giocare giochiamo, è una non partita. Oltre a essere nettamente avanti, è evidente che battiamo i carissimi amici di 24 mattina. In ogni caso, nonostante il fatto che vinciamo lo stesso, io vi invito a votare, perché mi fate incazzare se no, ascoltatori della zanzara, voi che siete in macchina, in taxi, in pullman, voi che siete con gli amanti, altrimenti rivelo tutti i vostri segreti. Cuffiedoro.it, andate dentro dove siete a votare per la trasmissione, per il conduttore, ci sono tutte e due le possibilità. Andate a votare per tutte e due le cose, votate Cruciani, grosso come una casa, e anche la zanzara sotto. Chiaro? Chiaro che voglio in questo weekend una grande mobilitazione per vincere questa roba, perché a me non me ne fotte nulla dei premi, però quando uno è in battaglia, e la battaglia si deve affrontare per vincere, non come dicono questi poveretti di 24 mattino che dicono no, ma noi non puntiamo a vincere. Ma che non puntate a vincere? Bisogna puntare a vincere, amici miei, a vincere, non a perdere. Dai, su. Che vuoi dire, Parenzo? Non ho capito. Io che sono radicale dico forza Milan. Ma vattene a fanculo, te Milan, va. Sei un poveraccio, sei, dai. Comunque volevo dirti, scordate la cuffia d'oro, perché la cuffia d'oro la vincerà lo so di 105. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera guarda avanti. Guarda oltre i monti, non permettere al tiranno di accecare. Sono una nonnetta padana, capito? Ecco, allora, con una voce abbastanza chiara e precisa, a Parenzo vorrei dire... Mi fate piangere quest'oggi, signore, lo so che mi arriverà la querela di Parenzo. Cosa dici tu? Hai risvegliato le nonnette. Hai risvegliato le nonnette di tutte le età, signori. La gara a chi fa meglio la pernacchia a Parenzo. Cosa c'è? Un bello otto qua ci stava. Padania bella e libera. Cioè, vorrei dirti, Parenzo, che hanno organizzato a Radio Padania una gara di pernacchie nei tuoi confronti. Ottimo. Tra ottimo. Nonnette padane. Tra nonnette. Però voglio capire questo, visto che abbiamo parlato del www.cuffiedoro.it, il concorso per la zanzara, eccetera. Voglio capire, perché ho guardato tutti questi giorni, non c'è radio odio tra i candidati. No, non c'è radio odio. Probabilmente sono tagliate alle cuffie, come dire, al come si chiama il Cucus Plan? Al al, quello che si, al passamontagna bianco probabilmente sono candidati. Probabilmente fece un concorso, dice qual è che, no, sai, bisogna inserire quella... questo il concorso, cosa? Concorso odio, cioè il radio concorso odio. Dell'odio, dove ti regalano praticamente il, la cuffia del Ku Klux Klan. Oh, fanno una pernacchia anche a me, senti, senti. Vabbè. Sì, ma non dimentichiamoci anche di Cruciani, non c'è solo Parenzo, eh? È vero, è vero, è vero. Parenzo e Cruciani. Questa è la versione ferrarese, no? Comunque no, ci mancherebbe, vogliamo bene, tutto quanto. Diciamo che appunto hanno avuto questa opportunità di fare una bellissima trasmissione televisiva e poi è finita lì e non ho mai capito il motivo, forse perché era piena di tante parolacce, poi hanno invitato Sgarbi la prima sera. Un otto e mezzo? Senti Varin, non è manco il caso di risponderti, è passato un anno, ancora ce l'hai in testa però questa cosa, ancora ce l'hai in testa dopo un anno, chissà perché ancora ce l'hai in testa dopo un anno. Vorrei ricordare che questa radio che manda in onda questi, questi flati, questi odori, questi odori radiofonici è finanziata con i soldi pubblici, solo questo volevo ricordare. Certo, bisogna sempre ricordarlo, Radio Padania, sempre. Radio Padania è finanziata, il finanziamento pubblico, finanziata con i soldi vostri per far vostri. Parlare queste nonnine, queste nonnine cariche di odio. Pronto? Vai, senti, vai. Vogliono anche Parenzo decapitato. Senti, guarda, ma poi hanno delle cose gravissime nei tuoi confronti. Senti, io ho un sogno nel cuore. Parenzo decapitato. No, censuriamo, la vogliamo la testa di Parenzo, ma attaccata a tutto il resto, mi raccomando. Senza dubbi neri. Se la rideva l'amico Varin, se la rideva. Poi addirittura qualcuno è intervenuto, guarda che ne hanno dette veramente di tutti i colori, vai a vederti, sacchetto di immondizia, addirittura babysitter mantenuto, senti questa cosa, senti, una cosa gravissima, gravissima. Sì, ciao, sono Franco. Poi Franco. Senti un attimo, ma ti volevo chiedere una cosa, ma tu sai che il buon Parenzo fa il babysitter, no? E poi a tempo perso fa la zanzara. Per cui che problemi c'è? Cioè, nel senso che lui si è risposato con una piena di soldi e per cui si può permettere di fare questo. Poi mi risulta che hanno pronunciato anche il nome, se non sbaglio. Io questo qui lo denuncio tutti questi. Penso che ci spreme. Ma dai, non ti arrabbiare, ma sono dei poveracci, dai, su, ma no, sono dei poveracci. Questi qui adesso li faccio vedere io, perché mi pago, questi qui li denuncio tutti e poi do i, i soldi, li do tutti. Sacchetto di immondizia, senti, sacchetto di immondizia. Questi li denuncio tutti. Pronto, buongiorno. Voilà. Allora, dai, difendiamo anche il povero Parenzo. Oh, almeno uno, bravo, bravo, bene. Allora, vorrei ricordargli soltanto che 1000 disoccupati al giorno in più ci sono qua e lui è simpatico, ma è simpatico come un sacchetto di immondizia che è quello che è in testa. Perché? Perché lo trattate così male? Nelle mutande, ma no, ma il suo personaggio, non capite che il suo personaggio, lui deve fare il personaggio cattivo e ben pensante e Cruciani deve fare quello un po' più di destra. Sono pagati anche bene per questo. Pronto? Bella e libera. Guardava. Vabbè, dai, c'è tanta altra roba. Ma questi fanno la trasmissione su di noi. Ma poi chi è che sì, infatti la realtà è che l'abbiamo fatti campare, li facciamo campare noi, perché questi sono dei disgraziati che se non ci fossimo noi parlare. a dare voce. Ma bisogna dirla tutta, perché siccome ormai il Dio Po non esiste più, la Padania non è più indipendente, la secessione non esiste, esistono soltanto gli immigrati e la Le Pen, non hanno un cazzo di cui parlare e l'unica cosa di cui parlano siamo noi praticamente, quindi noi dovremmo ricevere noi i soldi del finanziamento pubblico, esatto, di quella, bravo, di quella radio. Perché non ci danno a noi i soldi? Devono continuare, esatto, a fare questo, ma girarci i soldi del finanziamento pubblico, senza di loro non farebbero più nulla. Padania non è più libera, la Padania è finita, non c'è più la secessione, non c'è più l'ampolla del Dio Po, non esiste più niente di tutto questo e devono parlare di noi. Però c'è una notizia strepitosa, amico mio, è una notizia che è veramente fantastica. Allora, senti questa cosa qua. Vanna Marchi compie 72 anni, annuncia la nascita della Vanna Marchi Television. Della? Vanna Marchi Television. Ma io non oso sapere cosa succede a quella festa di compleanno. D'accordo! Vanna Marchi TV. Siamo al top, siamo al top. Ma dove finisce Vanna Marchi TV? No, c'è Marca, ma non lo so, su internet forse, su web, Vanna Marchi Television, Television, amico mio, Vanna Marchi Television. Ma lo sai chi è? Che è il aspetta, il mago. Uno dei tre protagonisti di questa avventura. Il direttore della testata. Aspetta, uno dei protagonisti di questa avventura è Raffaello Tonon, l'amico Raffaello Tonon che mi rompe i coglioni ogni tanto per telefono. Mi chiama e dici fammi intervenire, ubriaco. Fatto Raffaello, ho capito. Mi chiama alle 3 di notte ogni tanto, Tonon! Poi c'è, senti questa cosa, la principessa senza principato Francesca Lovatelli Caetani. Li voglio chiamare tutti a uno questi qua. La Vanna Marchi Television, la principessa senza principato Francesca Lovatelli Caetani, il conte senza contea Marco Maria Salata, ti giuro. Il chirurgo senza laurea Giacomo Urtis, questo che abbiamo invitato pure una volta qua. È veramente il top. È il top. Vabbè, dai, andiamo a sentire qualcuno, dai, che stasera detto, se no sbraghiamo. Ivan da Milano, Ivan. Ivan, dimmi caro, dimmi. Come stai? Senti, ho una proposta per te. Dimmi caro. Se sei d'accordo, fra 20 minuti ti passa a prendere e si va al bar Oceano. Ah, l'Oceano, sarebbe il top. Dov'è? Lì a Lugano, dov'è? Sì, ho sentito, c'è una rumena Catiuscia, 50 euro, bocca culo fica. Ma scusa Ivan, eccolo qua. Abbi pazienza. Scusami, siamo partiti con l'ISIS, buon anno sugli sgozzamenti, la legge del taglione, eccetera. Poi sì, è vero, abbiamo fatto sentire Radio Padania, poi c'è la notizia della Vanna Marchi Television. Adesso arrivi tu e mi dici che vuoi portarmi all'Oceano, a Lugano. Cazzo, 50 euro. Ma io ci vengo volentieri, però stasera francamente non posso, dico la verità. Stasera non posso, però vabbè, una di queste sere facciamo. Apparenza non lo posso chiedere perché è asessuato, quindi. Ma adesso non esagerare, adesso Ivan. Io guarda, ti assicuro. Grazie di questo invito, caro. Per andare al bar Oceano a bere un crodino, allora lo chiedo a mio babbo, scusa. Però scusa, Ivan. Ci portavo te che sei un esperto e. Ma io non sono un esperto perché. Te devi stare attento, amico mio, che ci trovi la tua sorella all'oceano, Ma devi che sorella, ma smettila, che c'entra la sorella? Dai, ecco, Parenzo, sei sempre il solito volgare. Io solo ho fatto una proposta. Se Beppe è d'accordo, 20 minuti se sono sotto. Trascini, se siamo Ivan, purtroppo non può. A parte che tra 20 minuti ancora sto qua in radio, finisco le 9:10. Ma devi chiedere, però, come Parenzo va in Pineta col bimbo, puoi venire anche te a Barogeno. No, ma scusami, tu ma io vorrei venire, però. Vorrei venire. No, ma tu ti devi chiedere perché, secondo me. Aspetta un attimo, devi fare un ragionamento di 30 secondi e chiederti come mai, ad esempio, questi qui non chiamano, che so io, da Melog, Malog, come si chiama? No, Melog, non sai neanche i titoli della trasmissione. No, come dal mio amico, da Gianni, Parenzo, basta. Perché questo qui non chiama dal signor Milan, ad esempio? No, perché Milan non ce l'ha, gli ascolti, c'è un po' di. Perché Milan non è un esperto come Beppe. No, beh, aspetta, questa cosa pure va precisata, non è che io sia un esperto, però io vengo volentieri con te a fare un esperimento, a vedere. Stasera però non posso, soprattutto non posso tra 20 minuti perché sto ancora qui alla radio, amico mio. Allora facciamo una sera e facciamo una sera in diretta da lì. No, quello non si può fare. Cioè, è un'idea, si può anche esserci se tu vai e tu ti colleghi da là dentro, solo che là non puoi accendere il cellulare dentro, vero? Hai ragione, è vero. Mi sa che non puoi accedere, se no facciamo una bella diretta da lì, così ci facciamo cacciare definitivamente. Tutto a posto, la diretta dal bordello, Oceano, straordinario. Beppe, 50 euro tutto è un affare. No, ma ho capito, 50 euro tutto è un affare, però amico mio, adesso. Perché ad esempio anche il culo. Sì, ma ho capito, Ivan, ho capito. Stai calmo però, adesso non andare nel dettaglio, abbiamo non c'è capito. Bisogno di specificare tutto il dettaglio. Tutto 50 euro, abbiamo capito benissimo, tutto, vorrei basta dire tutto. Vorrei capire, perché questo genere non chiama da Salvatore Carruba. Comunque non ci sono gli ascoltatori che intervengono. Ho lasciato un numero, Beppe, se vuoi. Sì, questo insiste. Non è solo questo il motivo. Tu, richiamami un'altra sera, Ivan, andiamo tranquilla, mi passi a prendere qui e andiamo all'oceano. Sì. Perché? Che male c'è andare all'oceano? Basta uno squillo, il numero ce l'hai ora. L'ho sì, vabbè, lasciato. Ma chiama tu adesso, io non so, chiama tu al centralino, dici pronto? Vengo io al telefono, dico ciao, che dobbiamo fare stasera? Andiamo all'oceano, andiamo all'oceano. Comunque una bella... non fa il timido, sono ragazza alla mano, cioè. Ma sì, d'accordo, Parenzo, vieni con noi all'oceano, o no? Ma non ci penso minimamente, non ho bisogno di pagare per fare quelle cose. No, Parenzo, vieni anche te. Dai, su. Ma guarda, io non c'è problema, lo so, non c'è la patente, la prendo io la macchina. No, adesso la sto prendendo per quello, tra meno di un mese arriva. Sì, però in Svizzera mignotte non ci vai, dici, no? Ma no, non c'è bisogno di pagare per ciao, me. Ciao Ivan, no. Grazie dell'offerta, ciao, grazie. Ti faccio sapere poi. Fammi sapere, fammi sapere, che ti devo fare? Ciao. Man come in the name of love. One man come and go. No, io non uso mai testimoni. Posso usare voi due per atti osceni, insomma. Per atti osceni in radio, non male. Ci collegheremo, popolo della zanzara, con un signore che ha fatto il viaggio con razzi in Corea del Nord. Non ci sono solo leghisti, non ci sono solo esponenti del Partito Democratico, un esponente del Partito Democratico, ma ci sono soprattutto esponenti di SEL, erano due, Sinistra, Ecologia e Libertà. Capito? Stenghi stang. Ma no, adesso stenghi stanco, la traduzione è ero stanco, sono stanco. Con furore, nonostante un po' di febbre che ha avuto in questi giorni, non so cosa abbia preso in Corea, il deputato di SEL, Sinistra, Ecologia e Libertà, Arcangelo San Nicandro, buonasera. Buonasera a lei. Come andiamo? Come andiamo? Molto lontano. Come andiamo? Mi sente lontano. Andiamo bene. San Nicandro è un posto molto molto bello. Ma lei ha recuperato San Nicandro? Che ha avuto? No, ho recuperato subito già in Corea. È stato, non so chi le ha detto che ebbi quel po' di insolazione, perché lei sui campi sportivi dove stavamo picchiava un sole che la Puglia, come dire, non conosce forse. Ah, quindi... cioè c'era molto sole che picchiava là. Sì. E che si è preso lei esattamente? Ah, niente, una sciocchezza, una cosa. Che ha avuto un cagotto, che ha avuto? No, e dall'altra parte abbiamo avuto un programma così fitto, così frenetico, fitto. Sì, certo. Che sostanzialmente c'era eravamo trascinati da un posto all'altro senza. Beh, certo, Storazzi è un trascinatore, cioè, ecco, non c'è... Ma scusi, onorevole, ma non è umiliante? Scusi, volevo capire questo, onorevole San Nicandro, non è umiliante farsi scorazzare dal regime a vedere le beltade di un perché? Posto dove perché si uccidono e si mettono in carcere le persone? Perché è umiliante? Senta, le rispondo subito, ma le l'avverto che la sento molto lontano. Vabbè, quello purtroppo sono le linee telefoniche che vanno così. Però io ti sento bene. È umiliante, perché innanzitutto quando bisogna parlare di un qualcosa bisogna conoscerlo direttamente, se certo, possibile. Io ho avuto questa occasione perché sono stato invitato da Razzi. Ma Razzi che personaggio è? Guardi, è una persona molto... Beh, posso dirla in una battuta... Certo, come no, lei deve fare... come no? Di Razzi ce ne sono molti in giro. Però... È chiaro, e lo dico in senso positivo, non in senso negativo. Cioè, in che senso di Razzi ce ne sono molti? È una persona molto semplice, molto simpatica. Sì. Devo ringraziarlo per il fatto che mi ha dato l'opportunità di conoscere una nazione che altrimenti non avrei per tanti motivi. Per cui ci sono dei pregiudizi su Razzi in giro, molti pregiudizi. Ma sì, voglio dire, è un uomo che ha lavorato, o ha preso stando con lui, che ha lavorato in Germania per 40 anni come. E come no, Razzi. Certo, certo. È chiaro, quindi parla più tedesco che italiano. Quindi, cioè è da ammirare da un certo punto di vista. Ma certamente, certo, lui poi mi ha molto stupito, sono stato molto sorpreso e ho capito quanto è forte, come dire, l'effetto mediatico su una persona. Cioè è diventato una sorta di mito assoluto. Ma guarda, lo fermarono dappertutto. Ma anche in Corea, no? Anche sull'aereo, per esempio, al ritorno, parlo dell'ultimo tratto, Parigi Roma, era un molisano che veniva dall'Australia e ha chiesto di fare la foto insieme. Sì. È chiaro, è successo sulla Grande Muraglia, è successo a Piazza Tiananmen. Cioè, ovunque va lo omaggiano, diciamo. No, posso anche riferire che anche Salvini è stato riconosciuto nella Casa della Seta. Salvini è normale, perché Salvini è comunque. No, non è proprio normale. Però lei dice che Razzi, come lo definirebbe? Cioè, uno statista, si può dire o no? No, non esageriamo. Però come diceva Andreotti, mi guardo in giro e non vedo giganti. Quindi e non vedo giganti, vabbè, gigante no, d'accordo. Però uno che è anche, diciamo, criminalizzato troppo dalla sinistra, questo si può dire? No, criminalizzato. Beh, sì, è stato considerato quello che ha cambiato, che cambia casacca, cambia, no, di quello che si è spostato. Ma lui ha anche spiegato perché, ha spiegato che non ha avuto rapporti, come dire, indecenti con nessuno, sì. Quindi ci ha spiegato cosa, sì, qual era il trattamento che aveva ricevuto da Di Pietro, sì. Insomma, diciamo che se critiche ci sono state, e come vanno fatte sempre quando uno, sì, cambia casacca, io sono stato in questi casi particolarmente severo, in verità, sì, non appartengo alla generazione del lascia perdere. Però è uno che lei ammira, Razzi, da un certo punto di vista. Vista umano, da un punto di lo ammira. Ripeto, molto simpatico, sì, mi ha sorpreso, ecco, diciamo. Capito, no, Parenzo? Ma anche Lino Banfi è simpatico, cioè voglio dire, se tu vedi Lino Banfi sulla grande muraglia dici facciamoci una foto. Beh, ma questo qua pure con sti coreani del nord, Sanicando, si è fatto un mazzo così sto Razzi, no? Cioè è andato lì, ha portato imprenditori, c'è uno che si è fatto, o sbaglio? Guardi, era animato, quando io ho scoperto qual era, diciamo, il gruppo, il componente del gruppo, ho visto che praticamente si è dato da fare, perché da un lato c'erano gli allenatori del calcio che venivano, perché ci hanno scoperto, io non sono un esperto di calcio. Però comunque. Poi ho visto che questi qua non erano venuti per... Senta, ma è vero come dice Razzi che in Corea c'è ordine, pulizia? Lei pure l'avrà visto, no? C'è ordine. No, ma lei non è che lo devo... Io gli suggerirò a Razzi, sì, di diffondere le riprese, sì, le foto, sì, centinaia e centinaia di foto che sono state fatte della Corea del Nord, perché per quanto riguarda la pulizia ha perfettamente ragione, cioè tutto splete, tutto molto pulito. Io sto parlando della città di Pyongyang. No, certo, chiaro. Allora, città. È inutile, come dire, scherzarci sopra, la verità, sì, è, d'altra parte, le mie foto, quelle che ho nel telefonino, sì, lo possono testimoniare, li aiuole al prato inglese, tipo prato inglese, voglio dire. Tipo prato inglese, sì. Erano esattamente curate. Immacolate, diciamo, immacolate. Erano immacolate, curate. La mattina c'erano le operaie, gli operai che aggiustavano, sì, sporbiciavano, certo, curavano, sistemavano la mattonella che era stata eventualmente sollevata da qualche radice, non so, di qualche altro. Tutto pulitissimo, pulitissimo. Questo è indubitabile. Ordinato, questo, anche ordinato, si può dire ordinato. Anche nei regimi, come dire, dittatoriali, può accadere che le aiuole siano curate. Ma la criminalità, pare che non ci sia la criminalità, pure, dice... Ma guardi, pare. Se dobbiamo parlare di quello che abbiamo visto, è solo di quello che abbiamo visto. Non c'è dubbio. È chiaro, io la sera... siamo andati anche in giro, come, sì, da soli, sì, soprattutto i più giovani, sì, e le posso rassicurare che problemi non ce ne sono, non erano concepibili, non che non c'erano. Ah, non erano proprio, cioè, una cosa è stare a Pyongyang, una cosa è stare a Napoli, per esempio, no? Dove succede come... ne sono convinto, cioè, convinto, che proprio, cioè, è dal giorno alla notte, cioè a Napoli uno esce, come si può dire, Sanicandro? No, voglio dire, le nostre città, per quello che le cronache raccontano, sono insicure. Non sono molto sicure. Pyongyang uno può andare pure ingioiellato, no? Sì, è indubito. Ripeto, su questo non c'è dubbio. Un attimo solo, che c'è la borsa, poi torniamo subito con i racconti della Corea del Nord di un deputato di SEL, partito della sinistra italiana. Com'è che si chiama di nome lei? Sannicandro, nome? Arcangelo. Beh, nome spettacolare, Arcangelo Sannicandro. No, bellissimo, suona anche bene. A Parenzo vorrei dire... Fa male solo a chi non sa ridere. E la zanzara. Parenzo, salvami, no, tu. Salvami tu, aspetta. Allora, scrive l'amico Alberto Dandola, come la chiamo io, la Dandola, per Dagospia. Tutta la Milano frociarola. Ieri sera si è dato appuntamento all'Indaco in Porta Venezia. Il ristorante pub si erge di fronte a una chiesa romanica, ma nulla di più pagano si è consumato in quel bel locale. Ma come scrive sto dato? Si è consumato in quel locale. Infatti Vanna Marchi, l'ex televenditrice più famosa della penisola, la donna che ha capito che gli italiani avrebbero creduto che la maga Don Asimento era una maga, ha spento 72 candeline. Soprattutto questa, alla festa non c'era un etero che fosse uno. A Avvistate Raffaello Tonon, la principessa senza principato Francesca Lovatelli Caetani, il conte senza contea Marco Maria Salata. Io vorrei conoscere questo qua, ti prego. Il conte Marco Maria Salata. No, ma scusi, non poteva fare. È un altro, il marchese Giuseppe Di Donato di Porto San Giorgio. Ma se lì andava al reparto dell'ospedale psichiatrico del Fate Bene Fratelli, faceva una retata in un colpo solo, capito? Li portava via tutti in un colpo solo, un bello psichiatra, li caricava su un furgone tutti e li portava via. Però scusa, perché bisognava portarli via? Ma tu ti rendi conto di questo? Però ragazzi, senza... qui non sono da solo, non sono da solo. Travaglio, Marco Travaglio. Sulla questione delle MILF, no, sulla questione delle MILF, sto passando ad un'altra cosa, sempre intervista, sempre della nostra amica Dandola. Travaglio, io sono del 64, esattamente mezzo secolo, e preferisco le donne della mia età perché hanno le mie esperienze. Sono di un'annata fortunata che ci ha regalato donne del calibro di Sandra Bullock, Sabrina Ferilli, Isabella Ferrari, Sandra Francesca Bullock. Bullock, come il trastragazzo si chiama. Il sogno erotico è di Vish Fenech, una bellezza senza tempo. Cioè, il sogno erotico di Travaglio è la Fenech. Cioè, anche a Travaglio, tradotto con, come direbbe la Zanzara, gli piacciono le tardone. Hanno una cosa in comune con Montezemolo. Ah sì, che ne sai di Montezemolo? La Fenech. Ah, vabbè. Che ne sai se è in comune? Comunque abbiamo con noi uno dei protagonisti del viaggio, ecco, organizzato, no, cosa, organizzato però, da Antonio Razzi in Corea del Nord, Arcangelo San Nicandro, Sinistra Ecologia Libertà. San Nicandro devo dire una cosa assolutamente, perché lui dice che lì non c'è la criminalità, per forza i criminali sono al governo, non c'è criminalità per strada, perché tutti i criminali li hanno messi a governare il paese. Cioè sta dicendo Nord. Parenzo, onorevole San Nicandro, lei che è di Selle, che quella là è una dittatura bella e buona, diciamo la verità, in Corea con del Nord. Con criminali al governo, lei come definirebbe i governanti della Corea del Nord? Diversi per esempio dai governanti americani? Allora guardi, tentando di essere sintetico, perché sempre sintetici bisogna essere. Allora, noi ovviamente non abbiamo, e credo che pochi in Italia conoscono bene come è la situazione da quelle parti. Beh, perché io prima di andare ho cercato di documentarmi, no? Sì. Allora, al di là di scritti, come dire, paranoici, come quello che ho davanti agli occhi, non ho trovato. Cioè? Ho cercato di informarmi sia sul piano, sia sull'ordinamento statale, sia sull'ordinamento giudiziario. Però è ovvio che si è trattato di una... No, però scusi, c'è la dittatura o no? Questo voglio capire, onorevole San Nicandro. Guardi, ecco, le dico quello che ne ho detto, poi traga lei le conclusioni. No, quello che sa lei, quello che dice lei, non quello che le hanno detto. Quello che dice, guardi, quello che pensa lei. Se lei vuole fare il paragone, quando parliamo di dittatura, se lei vuole fare il paragone con la nostra storia, lei, io le dico che è tutt'altra storia. Vabbè, quello abbiamo avuto la rivoluzione francese, abbiamo avuto l'illuminismo. Vabbè, ma quello è eccetera, eccetera. Allora, se mi vuol far dire che lì c'è la dittatura, io lo dico tranquillamente. Vabbè, perché dal nostro punto di vista lì c'è una dittatura. Però la informo, la informo che il sistema elettorale, per quanto ho potuto capire, mi hanno spiegato, è certamente. Cioè il Porcellum, cioè non ha nulla da invidiare a quel sistema elettorale. Cioè è peggio il Porcellum del sistema elettorale loro. Chiaro, perché lì, San Nicandro, però abbia pazienza, ma lì non si vota, quella in sostanza vota. No, lì si vota. Ma non ci sono voti, è una roba finta, falsa, una tarocca. Ma lei dice che è falsa, mi dice come ma si non vota. Ma è normale, ma non lo so come si vota. Lei mi deve dire come si vota, cioè perché il Porcellum sarebbe peggio? Perché sarebbe peggio il Porcellum, scusi? Allora, se mi dà due secondi. Certo, per carità. Noi col Porcellum o con l'Italicum avremo delle liste che saranno composte secondo come lei già sa, così come i segretari dei partiti dispongono. Vabbè, i partiti, sì, non è che sono dittatori, però i segretari dei partiti, sono segretari dei partiti, eletti democraticamente. Esattamente, lì ci sono tre partiti. Ci sono tre partiti, il Parlamento è composto di 687 deputati, come ci ha spiegato il suo Cioè presidente. Lei sta dicendo che fanno dentro nei partiti io c'è dibattito, c'è che dibattito. Hanno riferito. Ma che ci sono? Ma riferito chi? I cosi? Il presidente dell'Assemblea. Ma te credo che gliel'ha riferito il presidente dell'Assemblea? No, ci siamo incontrati ma non è un signore che sta lì a dire che la Corea è una dittatura, le hanno riferito quello che vogliono loro. Hanno riferito quello che dicono loro. Ma allora, scusate. Cioè, San Nicandro, lei vuole dire che nei partiti lì c'è dibattito? Cioè, io non voglio dire niente. Cioè, ci sono le primarie, ci sono le primarie quello lì. Che ci hanno detto. Vabbè, non ho capito, ma lei ci crede, evidentemente. Io voglio capire quello che pensa lei. Io sono abituato a partire dai fatti e dai fatti. Che partiamo ascolto. Dai fatti. Poi allora faccio le valutazioni. Dai fatti. Lei me lo faccia dire almeno. No, ma certo, partiamo dai fatti. Lei ha detto il Porcellum è sicuramente quello peggio della legge elettorale. Esattamente, perché se le cose stanno come adesso le starò dicendo, mi dica, sì. E allora dovrebbe tirarne lei le conseguenze. Cioè? Lì innanzitutto sono tre partiti. Sono tre partiti, poi? Poi? ci sono 687 deputati. Sì. Di questi, questi 687 deputati appartengono per sì. la grande maggioranza al Partito del Lavoro, ex partito marxista. Poi? Perché la parola marxista l'hanno tolta dalla Costituzione. Vabbè, sì, vabbè. È chiaro. Poi ci sono altri due partiti minori. Sì, minori, certo. Ora c'è un deputato rappresentante di 30.000 persone. Nella nostra sì. Costituzione era scritto un rappresentante ogni 80.000 nella Costituzione del 48. Sì. Lei sa dove stiamo andando a finire. Dove stiamo andando a finire? Anche, e lei sa anche che non sa, praticamente che il concetto di rappresentanza ormai è, come dire, è quasi noto. Cioè lei dice che dal punto di vista della legge elettorale loro sono più, sono più democratici di noi. Loro fanno, non dico che più o meno, no, dico no. I fatti. Ma no, ma tragga le conclusioni, tragga le conclusioni. Le conclusioni non sono possibili allo Stato. Ma no, ma lei l'ha detto prima, il porcellum è peggio. Questo è peggio perché se mi fa finire. Appunto, questa è la conclusione. Perché no? Perché non mi ha fatto ancora dire. Lì le elezioni avvengono innanzitutto all'interno dei partiti, una sorta, da quello che ho capito, di primarie. Cioè ci sono le primarie, lei dice, dentro i partiti? Io le ho qualificate primarie. Sì. Sto soltanto dicendo che la prima selezione con elezioni avviene per vabbè. Partito. Dopodiché viene fatta sì. la lista, così come fanno i nostri partiti. Vabbè, ho capito. È chiaro? Dopodiché il popolo generalmente vota, popolo vota e in questo caso è ovvio che, io presumo, il risultato sia più che scontato. Scusi, per cui, più che scontato col porcellum. Per cui Renzi, come scontato col porcellum? Per cui Renzi, da questo punto di vista, è una specie di pericoloso dittatore? Non è un pericoloso dittatore, innanzitutto è un altro vuoto. Quindi che quale pericoloso dittatore? Non facciamo paragoni impropri, sto si offende i coreani. È chiaro. Ma di che stiamo parlando? Ma cioè rispetto ai coreani che sono comunque no eredi di una grande tradizione, Renzi lei no, dice. No, non sono eredi di una larga tradizione, no, perché se lei si riferisce al marxismo, eccetera, eccetera, lo hanno cancellato dalla. Però loro si rifanno al pensiero sì. del nonno dell'attuale dittatore. Sì, sto meglio, sto meglio mi sento. Infatti loro c'hanno il simbolo del Parenzo è silenzioso, Parenzo. No, io capisco il relativismo culturale del nostro senatore amico Sanni Candro, però francamente tra la Corea del Nord e la Corea del Sud io mi sentirei molto più sicuro della Corea del Sud. Mi dispiace che un deputato allora della le posso dire quanto mi ha detto una ragazza italiana che viveva a Pyongyang e che prima viveva a, come si chiama, a Seul. Che ha detto? Ha detto che io sono stato un anno a Seul, sì. poi alla fine ho scelto di venire in Corea del Nord. Io riferisco, perché? Non valuto. Perché? No, come non perché, perché nella Corea del Sud c'è il peggio del capitalismo e il peggio del confucianesimo, sue parole. Vabbè, ho capito, ma lì c'è la democrazia in Corea del Sud, si campa, ci sono i milionari, ci sono i denari. Sia lì o non sia al nord, siamo perfettamente d'accordo. Ma la pena di morte, la pena di morte c'è o no? Come? La pena di morte c'è in Corea o no? È una domanda che io non ho fatto, presumo che portarsi che può presumo. Come presumo? C'è la pena di morte, non è che presumo. Non l'ho letta, dico che c'è, come c'è la stragrande maggioranza degli stati anche democratici. Questo è poco ma sicuro. Ma no, veramente la stragrande maggioranza no, perché c'è in alcuni politiche. Stati americani e c'è, credo, ancora in Giappone, eccetera. Ma non mica per la pena di morte. Ma non è che c'è nella stragrande maggioranza dei paesi democratici, non c'è nella stragrande maggioranza dei paesi democratici, non è vero, in alcuni allora, stati americani. Scusa, mi correggo. C'è in Cina, c'è in America, va bene così? Vabbè. Senta, ma dunque Renzi da questo punto di vista è peggio di cosa? È peggio non di facciamo paragone a ma lei ma ma che fuori sono ancora in guerra, non hanno mai firmato. Cioè la dittatura di Renzi, la dittatura di Renzi sull'Italia è peggio di quella dei coreani. Guardi, se io leggo la stampa ogni giorno e ascolto la televisione come l'ascolto ogni giorno e vedo che ogni mattina appena apro la televisione tutte le trasmissioni cominciano con Renzi, mi ricordo della Corea del Nord. Perché ovunque volgessi lo sguardo c'era sempre la fotografia del vecchio o dell'attuale maresciallo. Capito? Claro. Capito Parenzo? Capito? Ma no, io dico che siamo cioè, per esempio, e dicono che esiste il filo spinato con ma sono senza parole io, filo spinato, sono filo allora, spinato elettricità. Senza parole. Sì. Oggi ho letto su ieri ho letto su un quotidiano di cui non faccio il nome. Sì. Peccato che la stirpe dei Kim abbia sempre mandato a morte non solo gli stranieri o le minoranze confessionali, e invece tutte puttanate. I propri concittadini, financo gli zii. Sì. E si riferisce alla famosa storia dei cani. Dei cani, sì. La Corea è un lager a cielo aperto, non con vero. Campi di lavoro dove intere generazioni sono nate e morte di fame e malattia, sì. senza aver mai messo piede fuori dalle recinzioni elettrificate, sorvegliate da guardie pronte sì. a sparare su chiunque tenti di evadere. È sbagliato in questo girone infernale, considerato uno Stato, le colpe dei padri ricadono sui figli, così intere famiglie finiscono nei campi e ai bambini nati lì dentro viene insegnato a denunciare i genitori se fanno qualcosa che non rientra. Tutto falso. Tutto falso. Tutto falso. Questo io, ripeto, io mi ricordo quando si scriveva che in Italia che i comunisti mangiavano i bambini, non so se lei se lo ricorda. Sì, come oppure no, certo. Che i bambini, c'è un famoso libro, no? Quando i comunisti mangiavano i bambini. E ci le sono riportati solo ricordare... del Corriere della Sera, di altri giornali, che narravano delle, dei bambini del sud, strappate le famiglie. Ma non ho capito, mandati. Ma dunque questi articoli che descrivono la Corea del Nord come un lager sono tutti falsi, secondo lei? Guardi, quando lei definisce un lager una cosa del genere. Beh, ma c'è scusi, mettiamoci d'accordo sui dissidenti termini, perché... i dissidenti vengono portati all'interno di lager, ci sono testimonianze di grandissime autorità internazionali, di organizzazioni internazionali. Sto dicendo che è una democrazia occidentale. Ma lei l'ha visto? No, io non ho visto i lager. Ma perché non ve l'hanno fatti vedere? Non ve li possono fare vedere. I turisti di Roma quando li porto in giro li porto a fondare in treno soltanto. Ma non è la stessa cosa. Ma uno ci può andare liberamente a vedere. Ma che significa non li hanno fatti vedere? Certo che non c'è, può darsi che non ci hanno fatto vedere. Cioè, secondo lei questo filo spinato, il filo spinato, quella che non esiste, roba che non esiste. Io non ho detto che non esistono, perché le cose che dico che non esistono, lo dico quando le verifico. Ma lo sa che gli omosessuali... Un giornalista che scriva queste cose che io le ho lette, io la voglio incontrare, perché il suo nome non si capisce qual è. Sì, non per sapere, scusa, da dove è attinto la notizia? Ma dalle organizzazioni internazionali che hanno... Guardi, lei faccia il controllo su internet. Come sì. Io ho tentato di farlo. Cioè sono tutti americani, filo americani sono, tutti filo americani. Ma sono articoli uguali a questo da sempre, di cui le uniche notizie effettive che sono riuscito ad avere, che è la popolazione 120 milioni circa di abitanti. Sannicandro, lei dice che la Corea ci sta dicendo, in sostanza, adesso lasciamo perdere che mi hanno riferito che ho letto che in fondo. In Corea non è che si sta così male, cioè lei ci manderebbe a vivere suo figlio in Corea? Ma perché devo mandare in Corea se noi siamo italiani? Vabbè, ho capito. Ma storia, quando dicevano a noi comunisti italiani, vabbè, quando c'è detto sì, perché non ve ne andate in Russia? Vabbè. Il ragionamento è. Vabbè, comunque, ma lei è comunista ancora? Lei è comunista ancora? Il partito comunista non esiste più, purtroppo. Come purtroppo? Il partito comunista non esiste, purtroppo. Purtroppo, dovrebbe essere. L'hanno dissolto. Con gravi responsabilità storiche, e i risultati sono quelli che abbiamo davanti a tutti. Ci vorrebbero i comunisti, diciamo la verità, ci vorrebbe il partito comunista. La prima repubblica ha assicurato benessere e sviluppo all'Italia e ai cittadini. Capito? La seconda, ti direi le conseguenze. Si stava meglio quando si stava peggio. Vabbè. Mi meraviglio del fatto che i dati della disoccupazione sono quelli che sono. Vabbè, dai, su, ma non si può dire così. Avanti, Parenzo, che dici? Non ha avuto 5 minuti di tempo di chiedere a questo regime, che lo ha, a qualcuno di questi marescialli, colonnelli, qualcuno di questi stracciaculi che governano questo paese, di dirgli scusi una domandina, ma perché qui incarcerate chi non la pensa come voi? Mi bastava questa domandina. Perché non l'ha fatto? Perché non ha fatto questa domanda, signor Sanigallo? Guardi, innanzitutto avrei potuto fare 1000 domande, è chiaro. Però era ospite, pagato da quelli. Abbiamo fatto domande anche imbarazzanti. Ma quale imbarazzanti? Ma dove? Dove stanno? Perché sono state fatte, è stato chiesto per dire un esempio, perché mai avete lanciato dei missili Francesco? Che domandone! No, non è una domanda, che domandone, non l'ho fatta io, certamente non è certo una domandona provocatoria. Perché avete lanciato questo missiletto quando c'era Papa Francesco in Corea del Sud? Perché sono cazzi nostri, avrà risposto il... Non l'ho fatta io la domanda, l'ha fatta un'altra persona. Le storie terrestri. La risposta qual è stata? La risposta? Siamo arrivati anche addirittura a questo livello di, come lei giustamente sta dicendo, di domande sulle quali quelli ci hanno risposto. Noi abbiamo un solo nemico nel mondo, si chiama Stati Uniti d'Europa. Siamo in uno stato di allerta continua, ci hanno portato anche a vedere il 38esimo parallelo, dove stanno i soldati loro da ma sono gite che tutte guidate dal regime, vi fanno vedere quello che vogliono loro, l'ha capito o no sta cosa? Sono gite tutte guidate dal regime, scusate, ma dove ci dovevano portare? Cioè, ma è meglio l'America o la Corea del Nord? Se lei dovesse scegliere vivere in America o in Corea del Nord, dove viverebbe lei? Io vivo in Italia. Ho capito, ma se lei dovesse scegliere come modello la Corea del Nord o l'America? Non ci sono modelli, ogni popolo ha la sua storia. Lei non sceglie, non dice meglio l'America o la Corea del Nord. No, lei non lo dice. io non vivrei né in America né nella Corea del Nord, perché io voglio vivere in Italia. Cioè, pari sono, secondo lei pari sono, vabbè, ho capito. No, pari sono, non voglio vivere, ma perché le mi attribuisce così, non ho detto? Premesso che io vivrei in America tutta la vita, ma non è questo il tema. È la questione che di gusto. Sì, ma anch'io vivrei in America, Sanica, quello è chiaro, al sole della Puglia è evidente che è meglio che stare in Corea del Nord, forse è meglio che stare in Ohio, su questo non c'è dubbio, al sole della Puglia non fare una mazza, non lei, dico, dalla mattina alla sera, è molto meglio stare piuttosto che in Corea del Nord. Non facciamo niente in Puglia dalla mattina alla sera. No, in generale, non fare niente, come uno... No, cioè... No, tu però devi sapere questo, sai, hai fatto questa giusta domanda, Cruciani, prima, no? Hai detto, c'è questo signore che a un certo punto ha fatto la domandina del missile, no? Può alzare un attimo la voce, per favore? Sì, sì, no, grazie. Dico, c'è questa persona della delegazione che ha osato alzare il missile e dire, scusi, perché avete lanciato un missile lì? Sì. Questa persona qui, a un certo punto, il giorno dopo non c'era più, a un certo punto, ma dove cazzo è questo? È sparito improvvisamente. E tutti loro sono... Dove è stato il fame amen? Sono andati dal regime e hanno detto, scusa, ma dov'è il compagno Francesco che era qui? Mai esistito il compagno Francesco? Dice, come no, cazzo, compagno Francesco era ieri quello che ha fatto la domanda. Nessuno ha fatto domande ieri. Cioè, no, scusi un momento, eravamo in 22. Comunque, ora siamo in 21. San Nicandro, il maresciallo, ma lei sta raccontando un... Ma sì, sta scherzando. Ma il maresciallo è sempre il maresciallo, comunque un grande personaggio il maresciallo, no? Il capo. Io ripeto, io mi sto sforzando non di... Sì. Di tentare, lo so che non è in sintonia con quello che lei dice. No, ma lei sta dicendo che... È solo una vita, oddio, che si dice questo è il modello. Allora, per esempio, siamo stati in Cina, sì, no? Cina, di ritorno sì, ci siamo fermati a Pechino. Sì, all'aeroporto. Ora, vi siete fermati, non è che siete andati. All'aeroporto siete andati, non è che siete... No, siamo stati due giorni a Pechino, sono stati in giro. Pure, sì, vabbè, in giro a Pechino, sì. Sono stata alla Grande Muraglia e... Ah sì, è vero, dove la gente salutava Razzi, è vero. Devo chiudere. Bene, siamo stati alla... San Nicandro, però devo chiudere, lei è stato molto gentile, la ringrazio. Prego, e l'abbraccio, grazie. Siete proprio delle bestie. Io ascolto la sua trasmissione saltuariamente e sinceramente non ho capito a cosa lei serve. Ha una beneamata mazza, ha una beneamata mazza. Beh, cari amici, cosa ci siamo persi questa settimana? Cosa vi siete persi questa settimana? Un esponente del Movimento 5 Stelle, iscritto al Movimento 5 Stelle, uno di quelli che va in televisione a parlare a nome del Movimento 5 Stelle, l'amico Daniele Martinelli. Lo sapete, il blogger Daniele Martinelli, che è stato già a capo della comunicazione dei 5 Stelle alla Camera. Ebbene, caro Parenzo, cosa ha detto Martinelli? Delle cose incredibili, delle cose pazzesche. Sì, sì. Ha detto, senti. Che le donne mamme non devono lavorare, è meglio che stiano a casa. Cioè, le donne che lavorano oggi, intendiamoci, non è che lavorano per scelta, lavorano per costrizione, ma perché uno stipendio non basta più, quindi ci sono moltissime donne che lavorano perché sono costrette a farlo per tenere il bilancio familiare, ma se potessero stare con i loro figli, molte di loro, io sono convinto, che ci sarebbero volentieri e sarebbe meglio in quanto mamme, capisci? Il lavoro è contrario all'essere mamma, non devono lavorare le donne mamma, capito Martinelli? Che è anche contrario al divorzio quando ci sono i bambini piccoli. Cioè, i genitori sono dei coglioni, degli irresponsabili, ha detto Martinelli. Allora, il divorzio con i figli piccoli, sì, io sono contrario. Cioè, il divorzio è sempre una sconfitta ed è una perdita. Il divorzio è sempre una scelta irresponsabile che a noi faccia comodo giustificarlo perché siamo degli irresponsabili e non siamo in grado di pensare all'interesse dei figli che vedono in noi dei riferimenti. E ovviamente l'adozione gay è un obbrobrio. L'adozione gay è un obbrobrio. Io non la darei mai, ma non solo gay. Adozione anche un solo genitore. Purtroppo se uno dei due muore non c'è alternativa. Giulio da Milano, fermi tutti, Giulio da Milano. Giulio Pasquale da Napoli. Salve, ma dimmi. Meno male che ci sei, Cruciani. Che succede? Che succede? Ma come può vincere Milan che si mette quella patetica pubblicità la mattina? Ascoltate Alessandro, Milan è un rimedio contro lo stress e non so quale altra stronzata, via. Ma se non ci stavi tu, sì. Ma guarda che ho visto la 7, no? Sì. Che si parlava di questo fatto della Corea. Sì. Non hanno minimamente nominato quelli della sinistra. E che c'è? Ah, tu dici perché hanno puntato solo su Razzi e la Lega, invece questi qua di Sel che dicono anche di peggio. La Lega e la destra, però sì. Non ci stava nessuno secondo loro dei PD, questi ipocritoni. Io però chiamavo, sì. A proposito di ipocrisia, per evidenziare questa cosa di Orlando, no? Se è vero che lui parlava degli sdentati, no? Sì, poi lui smentisce ovviamente. Vabbè, è ovvio, è stato nel ruolo e nei fatti, vabbè, comunque è chiaro. Però voglio dire, questa ipocrisia che poi in Italia ha fatto tanto breccio sui ben pensanti, quella lì dell'handicappato che diventa prima disabile, poi diversamente abile, il cieco che diventa non vedente. Vabbè, allora? Allora dico... questo patetico però sforzo tuo di diventare sempre più cinico è un po' fuori posto, cioè non esagerare, insomma, perché... Ma io non ho detto niente, ho detto semplicemente che quelli là stavano sul motorino a Napoli oggi, credo che tu ti riferisci alla questione di Napoli. No, mi riferisco al fatto degli sdentati. Ah, degli sdentati? Ma quello l'ha detto Feltri, che c'entro io? Ha detto Feltri, adesso lo faremo risentire, Feltri ha detto che i poveri non gli piacciono... Di cattivo gusto. Ma tu sai solo dire di cattivo gusto. Quando uno dice quello che prova, quello che sente, per te è no, di cattivo gusto. C'è un confine. Perché hai una maschera davanti. Scorretto. Hai una cazzo di maschera, toglitela quella maschera. Ma no, sii te stesso fino in fondo. Dillo che non te ne fotte nulla, che vivi bene lo stesso senza pensare ma ai poveracci, ecco, eccetera. Esatto, la penso diversamente. Ma cioè, figurati, non, penso... non te ne fotte nulla. Dai, non fotte quasi. Non è vero per nulla. Io la penso diversamente. Io credo che bisogna ridurre la povertà. Questo lo no, pensato. Mamma, infatti, bisogna ridurre. Ridurre la povertà, beh certo, tutti quanti noi pensiamo che bisogna ridurre la povertà, no, non c'è tutti, dubbio. Non tutti pensano che sia una priorità ridurre la povertà, non tutti. Cioè, questo mi pare la distinzione tra destra e sinistra, mi pare l'unica cosa certa che esista al mondo, diciamo, no? Fermi tutti. Feltri e i poveri, se volete incazzarvi con Feltri che è se stesso e dice quello che pensa sui poveri, ecco, questo è il momento, Feltri e i poveri. Però io insomma la penso un po' come Hollande, che a me i senza denti mi stanno un po' sulle palle. Sì, cioè preferisco non frequentarli, è brutta. Vabbè, ma la povertà cammina sulle gambe dei poveri, non è che... Intristiscono, sono veramente malinconici, è terribile, no? È meglio evitarli. Valentino dalla provincia di Lecco. Quella ragazzi, bentornati. Dimmi. Riaperto, ma è una settimana. È una settimana che siamo tornati, Valentino. Vabbè, ma se non mi date la linea, mica è colpa mia, avete riaperto. Dai, però parla, che c'hai là? L'auricolare, qualcosa? Prendi sto cazzo di cornetta, questo telefono in mano, su, dai, bene. Amico mio. Ce l'ho bene. La zanzara come la Corea del Nord, una grandissima democrazia, Beh sì, certo che la democrazia sicuramente è diversa dalla Corea del Nord. Poi comando io, però c'è cioè democrazia, andiamo, si discute, si parla. Non è che ci sono dibattiti, come dice San Nicandro, no, Parenzo in Corea del Nord. Non esistono questi dibattiti. Le primarie nei partiti, come ha detto. La legge elettorale è meglio di quella nostra. Ma dai, su, ma come no, si... Ma quando è che, per qualche giorno per qualche giorno No, voglio dirti questo, per qualche giorno prova a andare a fare la tua, a fare il ganassa e la zanzara dal califfo, ma che c'entro io? Perché dovrei andare Io non ci voglio andare, ma perché? Prova a dirgli, usa lo stesso linguaggio che usi qui dal signor al-Baghdadi, ma gli dici traffico, ma non mi rompa i coglioni, al primo rompe, ti sgozza in due. Sì, ma diglielo a Vauro, diglielo a questi altri, non a me, diglielo a questi che dicono che la colpa è degli occidentali, che c'entro vado io? Io penso che il califfo ha preso ammazzate, sgozzato lui, ma che vuoi da me? No, cioè, adesso sgozzato il come califfo, no? Il califfo lo ammazza perché se prendi gli americani che fanno il califfo? Non ammazzano, se lo pigliano il califfo. Ma chiuso ad Abu Ghraib. Ho capito, ma il califfo, il capo del califfato, gli americani se lo pigliano che fanno? Lo ammazzano, no? Cioè non è che non lo ammazzano gli americani. Non è che non lo sgozzano. Vabbè, no, sgozzano, no, ma è uguale, lo ammazzano. No. Ma giustamente lo ammazzano. Cioè, è diverso, Valentino, allora, Valentino. Allora, volevo innanzitutto dirti che ho lanciato l'hashtag sì, su Twitter, sì, che non vota Cruciani muore domani per le cuffie d'oro. Bravo, bravo, cuffiedoro.it, lo voglio ricordare, bisogna uccidere Milan e noi vogliamo vincere, perché non è che facciamo la partita a perdere, vogliamo, magari non vinceremo, però vogliamo vincere, arrivare primi, non terzi, appunto, quarti, quinti, settimi. Milan che dice no, noi non vinceremo, ma chi te l'ha detto? Devi combattere, amico mio, non... no, limitarti sempre, combattere sempre. Ma sì, ma non è che uno si può limitare o può cioè l'aspirazione è battere la Zanzara, cosa impossibile peraltro, per cui non credo che sia così difficile battere il signor Milan, che già il nome è profetto. Vabbè, questo adesso vabbè. Poi No, e volevo dirti, già che sono qui, volevo sparare, però già che sono qui, un commentino a padre Martinelli. Io sono un attivista del Movimento 5 Stelle. Padre Martinelli. Ah, padre Martinelli, sì. Ecco, perché io sono un attivista del Movimento 5 Stelle, però insomma, dire certe posizioni probabilmente mi viene da pensare che padre Martinelli ha sbagliato partito, ritrovo, diciamo. Però guardi che su queste posizioni, su che, cioè, non è che il Movimento 5 Stelle sia così, come dire, progressista. Insomma, io mi ricordo alcune manifestazioni in Parlamento di parlamentari che comunque ma cosa mostravano apertamente il vaso. Sono un attivista, sono partecipo. Dici, io sono un attivista, dici cosa fa? Va in rete, cosa fa durante il giorno? Cosa... Guarda, qua c'è da perché uno può fare l'attivista, no? Che Parenzo non può fare l'attivista del 5 Stelle, scusa. No, ma voglio capire come si. Esatto, certo che può farlo, ma voglio capire cosa fa l'attivista. Cosa fa l'attivista del 5 Stelle? Giusto, Parenzo. Cosa fa delle dirette streaming? Ma ogni tanto fa delle riunioni, delle cose. Ascolta una cosa, allora bisogna sfatare un mito, cioè il meetup è soltanto uno strumento. Ma sì, non voglio, però, non voglio più sentire la parola meetup. Non voglio più sentire la parola meetup. Avevo paura a dirla, Il meetup. Parenzo, dillo tu, basta questa cosa del meetup. Brivido sulla schiena. Basta, meetup. Fagli spiegare bene, perché questa roba mi manda proprio ai matti. No, basta, non c'è tempo. Un attimo, cos'è il meetup? Semplice in due parole, come si usava una volta, ci troviamo in un luogo fisico che però non è un luogo pagato dai cittadini, ma è magari il laboratorio artigianale, ci troviamo lì però poi per scambiarci delle informazioni, invece che prendere il telefono, invece che andare a chiamare, che fate? Utilizziamo una piattaforma che si chiama Meetup. La piattaforma, va bene, un attimo. Aspettiamo, dai che carica. Sei ancora a casa? Eh sì, caro Dell'Utri, noi qui, tu no, ti abbraccio fortissimo. Renzi ha trovato un nuovo nemico, ha trovato un nuovo nemico, la signora Deusanio, Alda Deusanio. È praticamente su tutti i siti questa figura della Deusanio, tra l'altro donna molto molto carina, che ancora si mantiene molto molto bene, a proposito di MILF eccetera, in questo caso siamo oltre le MILF, con un coltello, una foto col coltello alla gola in cui manda a fare in culo Renzi per la storia del blocco dello stipendio degli statali, dunque anche delle forze dell'ordine, capito? Proprio lo manda a fare in culo. Giorno da noi la signora Deusanio era stata durissima sulla questione dei Marò. Sentiamo. Io chiamerei il Mossad, perché l'esercito italiano non è capace neanche quello. Chiamerei un ottimo servizio segreto come il Mossad e me li riporterei a casa. L'ischemia porta una firma ben precisa, che è quella del governo italiano e dello Stato Maggiore dell'esercito italiano, perché chi è che ha dato l'ordine di consegnare due militari, ripeto la parola, militari al governo indiano per un qualcosa che non si sa nemmeno se sono stati loro a farlo? Abbiamo qui una persona che conosce molto bene Alda Deusanio, protagonista oggi di questa foto col coltello che sta facendo il giro del web contro Renzi, la nuova nemica di Renzi. E Renzi non deve sottovalutare la popolarità di certe persone, Non deve sottovalutare questo. Abbiamo qui un amico della signora Deusanio, la conosce da tanto tempo, ha lavorato in Rai da tantissimo tempo. Noi lo vogliamo presentare in questo modo, caro Parenzo. Io questa notizia di, non dico il nome, di XX fatto fuori dalla RAI, la sapevo da un mesetto e mezzo, me l'aveva anticipata sulle spiagge di Sabaudia una persona, fra poco ne parlerò con il personaggio in oggetto. Sentiamo se lo riconoscete da questa splendida imitazione di Maccio Capatonda. La peste bubbonica, la lebbra multiforme, il colera, la rogna, queste le auguriamo tutte a voi. Noi invece oggi parleremo di uno studio rivoluzionario che permette di dimezzare la durata della nostra vita. E lo faremo col dottor Matusalem, che è qui con noi, per capire se questo metodo funziona oppure è l'ennesima cazzata. Dottore. Effettivamente è un metodo rivoluzionario. Buonasera! Buonasera, eccomi qua. Come andiamo? Ma lei questa fantastica imitazione di Capatonda le è piaciuta? Non sì. Non l'avevo mai sentita, mi fa piacere sentirla, imita molto bene, è molto bravo. Beh, ma è divertente. Meno male che lei ha, come dire, no? Certo, il... che per un'imitazione del genere non può che farmi piacere. Senta, ma ci azzecca pure, insomma. Ma infatti ci azzecca, la voce mi sembra praticamente uguale, signor Onder. Scusi. Beh, insomma, è un po' meglio la mia, dai. Insomma. Beh, meglio che vuol dire, quella chiaramente è un'altra cosa, diciamo, è la parodia, no? La parodia. Certo, la parodia è fatta molto molto allora, bene. Innanzitutto lei deve sapere, caro Onder, che abbiamo una cosa in comune. Allora, lei è molto esperto di prostata, giusto? Perché no, insomma. Uno dei più grandi esperti di prostata. Io ho parenti, ma lei conoscerà sicuramente, adesso qui parlo di cose personali, Parenzo, forse nemmeno tu le sai. Io ho in famiglia uno dei più grandi esperti di prostata, il professor Enrico Cruciani, signor Onder. Bene, mi fa piacere. Lo conoscerà, sì. No, sì, oppure... sì, conosco tante persone. Adesso Enrico Cruciani non lo conosco davanti agli occhi. Un conta cazzo, cioè non conta nulla, lei sta dicendo. È stato uno no, dei più. No, tutt'altro. Se poi senta, ma che è successo con la RAI? Cosa è successo? Beh, sono andato in pensione definitivamente, già lo ero in pensione diversi anni, esatto. Collaboravo e adesso insomma sono andato in pensione definitivamente. Ma è un po' arrabbiato però. Mi rendo conto dal fatto che amici e colleghi tutti stanno dicendo guarda ti vengo a trovare e ti porto un cane lupo, chi invece mi va a portare un cane più piccolo, tutti mi invitano, ecco. Naturalmente mi farà piacere avere. Ma perché le vogliono portare il cane? Le vogliono portare. Vado a passeggio con un cane e mi muova e dimagrisca un po', come tutte le persone, in sostanza. Mi farà piacere andare a Villa Borghese con sto cane che mi regalerà. Ma sono dei cinici. Sono cinici. Sono dei cinici terribili. Cioè, le vogliono già la danno in pensione, ma lei non ci vuole andare manco per niente in pensione. Beh, in pensione già ci sto da diversi anni. No, in pensione dal punto di vista... Stare in pensione, dedicare un po' di tempo a me stesso, forse sì, in sostanza, forse è il momento, no? Quindi fa una bella passeggiata la mattina ad un'oretta, perché no? Anche con un cagnolino che mi hanno regalato, perché no? O anche con qualche nipote, io ho 4 nipoti, stanno crescendo, mi farà piacere portarmeli di sabato e domenica a fare un po' di giochi, sì. No? A camminare. Io però, scusi, Onder, lei ha 71 anni, ha condotto una trasmissione che peraltro è ancora in onda, perché ha registrato un sacco di puntate che si chiama Medicina 33. Sì, dice che la RAI l'ha trattata malissimo, però. Cioè, perché dice che la RAI l'ha trattata male? E che devo dire? Ormai sto in pensione e sono contento di starci, in sostanza. No, chiusa una porta se ne aprirà un'altra, forse anche migliore, insomma. Cioè, va a Mediaset. Un luogo comune, ma mi farà piacere andare per la porta nuova che si apre. Ah, va a Mediaset o no? Con più distensione, con più serenità. Lavorerò e mi continuerò all'età veneranda di 71 anni, che non sono pochi, vi garantisco, no. Non mi sento addosso, ricomincerò e mi metterò a studiare, dedicherò un po' di tempo, mi specializzerò in qualche altra cosa, che sia medicina, scusi, Onder, scusi un attimo, ma lei va davvero va a Mediaset? Io so che lei è molto amico di Mimun, no? Da una vita. Amico. Sono amico di tutte le persone con cui ho lavorato in passato, veramente di tutte, non ce n'è una. Però lei può andare, va a Mediaset o no? Non lo so, spero di sì. Spero di avere buone proposte da Mediaset e anche da altri. Spero di avere. Certo non cambierò lavoro e non rimarrò disoccupato. Per fortuna o per disperazione non lo so. Ma insomma disoccupato non ci rimarrò, nel senso che qualche lavoro troverò. Non ho in mano nessun contratto, evidentemente, perché la fine del mio rapporto di lavoro con la RAI è stata il 31 agosto. Ma quanti soldi gli davano alla fine? Alla fine, ma mi davano esattamente quei 500 euro al mese di che scritti da Dago Spia, né tantomeno mi davano 500 euro a puntata, mi davano a puntata la metà. 250 a puntata? Sì. Cioè, quanto faceva al mese, a parte che lei piglia la pensione, ma insomma, quanti soldi al mese faceva dalla RAI? Quanti soldi al mese? Lordi 6-7. 6-7 mila? Sì, non lo so, insomma, nell'arco di un anno arrivava una certa. Ma è stato trattato come una pezza da piedi o no? Si può dire o no dalla RAI? Come si può dire? Diventa una macchina infernale poi all'atto pratico, insomma, senza un motivo diventa una macchina infernale. E la lamentela è perché poi uno si sente all'improvviso, senza un motivo, senza una razionalità, trattato come un numero, anzi come un bullone. Lei doveva preparare le persone che venivano dopo? Dovevo preparare me stesso, non... No, doveva formare altre persone, questo aveva come compito tra le altre cose, no? Volevano darle o no? Beh, ma l'avrei fatto molto volentieri. Io nasco come professore, questo forse non lo sa nessuno. Ma io voglio capire una cosa. Parenzo l'altro giorno ha detto una cosa qui in trasmissione. Lei, non dico che ha fatto la vittima, però ha detto la RAI mi ha trattato male, alla fine, insomma, l'ho detto, me l'hanno strappato, insomma, eccetera. Ma poi non è vero, insomma, la RAI in questo periodo considera i dipendenti dei bulloni, insomma, dei bulloni. Tanti sono tanti, però insomma, uno dopo da parte un po', eccetera. A 71 anni Onder, uno dice vabbè, ho fatto quello che ho fatto. Sì, ma il criterio per cui io non lavoro più in RAI, e cercherò di lavorare altrove, è che gli ex dipendenti RAI non possono fare come i consulenti, altri, come molti altri. Voi avete da voi Minoli, che è un esempio, sì, una persona che ha costruito la RAI di oggi. Non possono fare i consulenti. E ha formato tantissime persone che oggi sono i numeri uno della RAI. Non possono fare i consulenti. Con la logica che, siccome è stato dipendente RAI in passato, non può più continuare a lavorare in RAI neanche come collaboratore. È un criterio, lei capisce, profondamente ingiusto, dal punto di vista mio, insomma. No, certo, la RAI poi è piena di persone avanti con gli anni che hanno grandi responsabilità. Giustamente, che uno però non deve fare troppo la vittima, Onder, in generale. Non la faccio affatto. Insomma, senta, io voglio dire una cosa: ma a proposito di prostata, no, le posso chiedere qualche segreto, dato che ormai insomma, lei dico... vabbè, io ho 71 anni, quindi la conosco bene. Il grande esperto sono perché ho 71 anni. Cioè, se è fatta pure lei la prostata, non l'ho fatta, insomma, però sto attento, insomma. Sta attento come le persone 71 anni in tutto il mondo. Ma io per esempio io ho 47, adesso quasi 48. Allora fra una ventina d'anni, insomma, comincerà qualche guaglietto, insomma. Per carità, lei dice solo tra 20 anni, perché dicono che addirittura a 50 bisogna cominciare a fare delle analisi. Insomma, non siamo eccessivi, no? Ma lei che è così esperto, ci sono stati grandi statisti, che politici italiani che le chiedevano consigli sulla prostata? Sì, sicuramente. Per carità. Senta Grillo cosa disse una volta. Vediamo un po' da lei se è una puttanata oppure no, Grillo. Sì. La prostata, per curarla, l'unica cosa, scusate la volgarità, bisogna trombare! Hai capito? Lo dice il British Medical Journal. Sì! O se no, fai altre cose. Il British Medical Journal dice 21 eiaculazioni al mese. Io sono a 18, quindi 21. Allora, è vero o no? Beato Grillo che ha queste possibilità eccezionali. Io non credo sia vero, no. Oltretutto British Medical Journal ha altri problemi da affrontare. Cioè, lei dice che questa storia che la prostata non viene se uno fa l'amore, diciamo, tromba, dicendola alla Grillo, come lo diciamo noi. Non mi sembra proprio. Però può essere che uno viene facilitato, no? L'attività, perché mantenendo l'attività, no? Che dici? Ma non mi sembra. Boh, non mi sembra. Tutto sbagliato. È chiaro che la cultura, adesso faccio il saccente, insomma, più uno conosce seriamente i problemi, più li sa risolvere, per carità. Sì. Poi si ammalano anche coloro che cercano di studiare, organizzarsi e difendersi. Però, va bene, Parenzo, che vuoi dire al signor Onder? Saluto il professore, gli auguro grande fortuna in questa sua terza vita che avrà. Voglio fare un accordo nel mezzo dei cammini di nostra vita, mi sono ritrovato, speriamo che sia proprio a metà di questo cammino della nostra vita. Fare una proposta al professore, però, perché visto visto che tutti avvicini, non tutto, perché sono a 71, tutti avvicini ai 48 sono ormai, sì, 15 settembre. Credo che sia interessante che il professore possa collaudare la prima trasmissione che farà, perché era battesimo, l'esame della prostata in diretta TV di Cruciani. Ecco, io questo penso che possa essere un impegno che il professore può prendere con noi, di fare proprio in diretta. Allora, possiamo, posso fare una cosa? Onder, vogliamo fare una cosa? Io faccio, come si chiama, il PSO, PSV, sì, come si chiama? PSO, quello per, sulla prostata, no? Quella prostata. Sì, stanno tutti a discutere se è valido, non è valido, se funziona o non funziona. Sì, però funziona. È molto importante, funziona. Però... come noi in Italia riusciamo a discutere pure se 2 più 2 fa 4, esatto. Se fa 4,1. Facciamo in diretta il mio la mia analisi della prostata, si può fare? Sì, è una cosa, sì, se lo voglio fare io, se no... Se vi fa piacere fatelo, insomma, io intanto sto di qua della linea telefonica. No, io lo mando prima, non sono coinvolto. Io lo mando prima via fax, e poi lei mi dà il responso, lo facciamo un consulto, certo. E facciamo un responso. Sì, facciamo, sono qua, insomma, sono... Va bene, un abbraccio, grazie. A presto. Grazie a voi, ciao, bravissimi. Ciao, piacere, ciao. Grazie mille. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Arrivederci. Ciao. Signor Onder, un mito, signor Onder. Guglielmo da Milano. Guglielmo. Eccomi. Vai. Vorrei fare un appello al voto agli ascoltatori di Milan. Sì. Non votate il panettiere dell'informazione. Ma chi sarebbe sto vota panettiere? Vota Cruciani, il puttaniere dell'informazione. Sì, bene. Questo forse lei non ascolta Milan la mattina, Cruciani. Come no? Io ascolto, guardi, l'ho anche dichiarato. E lui è il panettiere dell'informazione. L'ho anche dichiarato a un giornale, sì, lo so benissimo. Lo dichiaro, io la mia giornata si organizza in questo modo. Mi sveglio, ascolto Milan un po' sonnecchiante, leggo i giornali, eccetera. Ascolto il signor Alessandro Milan alle 9 meno 2, meno 3, meno 4. Vado a rifarmi un altro caffè e viro su Radio DJ, dove c'è il mio amico Fabio Volo. Quando c'è Fabio Volo, naturalmente, altrimenti non sento la radio. Fabio Volo mi fa divertire, mi sta simpatico. Questo è il mio programma, per cui lo ascolto. Certo che ascolto Milan. Questo è il mio programma radiofonico della mattina fino alle 10. Il signor Milan. Signor Milan e poi il signor Volo, il signor Fabio Volo. Capito? Pronto? Vabbè, Orietta da Roma. Sì, pronto? Vai. Ragazzi. Ciao. Bravi, bravissimi, bravo Cruciani. Vada a votare, bravo, cazzo. Vada a votare su sta minchia di computer. Dai, su, dai. Vado a votare. Dai. Ragazzi, e Gianluca, votare. Gianluca tutta la vita però, eh. Chi è Gianluca? Gianluca tutta la vita. Come via Gianluca? Avete gli ospiti, non sapete come si chiamano. Buon anno, buon anno. Gianluca, il sindaco, buon anno. Parenzo, fa il tifo per buon anno. Parenzo, abbiamo solo un problema. Qual è? L'incantatore di serpenti ci manca veramente, però ti paghiamo profumatamente, perché tu quel ruolo lì lo sai fare alla grande. Ascolta, se ci mettiamo vicino pure la Wanda Marchi a fare la donna cannone e chiudiamo, brava, il circo, che è uno spettacolo, va bene così? Ma maledetto il giorno, io dico, che mio marito mi ha fatto sentire questa trasmissione, perché io mi sbellico veramente dalle risate. Quanti anni hai? Quanti io anni ne hai? Ho 43. Beh, siamo col MILF, sai che è nato anche il premio MILF of the Year, MILF della... Vogliamo fare una cosa della MILF dell'anno qui alla Zanzara, la MILF della Zanzara. Ma fammi capire questo, tu saresti perfetto per, sì, come hai visto, questa tua passione per il desenectute, per le anziane. No, per le anziane, MILF ho detto, MILF e oltre, anche Cougar. Per far divertire queste nonnine di Radio Padania, magari si calmano un po'. Cioè, far divertire sessualmente, dici te? Non lo so, queste nonnine che chiamano, pronto, pronto, c'è un immigrato sotto casa. Ecco, queste nonnine che chiamano, potresti farle divertire, così si calmano un po' le nonnine. Le nonnine di Radio Padania. Vabbè, sì. Dove andiamo? Enrico da Firenze, dai che dobbiamo chiudere, forza. Arrivederci, ciao allora. Aspetta, fermo, dove vai? Che c'è tuo figlio là accanto, sempre schiavo sei. Enrico, un attimo, Enrico. Eccoci, grande, vai. Cruciani, pronto? Dimmi. Vai. Grande, un appello al buon Parenzo. Sono disponibile a fargli un po' di scuola guida se la macchina ce l'avete lui, anche per una settimana. Sì, ma tu sei a Firenze, però questo è il problema. Quello io sta a Roma. E come fa a venire a Firenze? Italia, lui si avvicina e io poi lo porto un giro. No, però scusami, Enrico, quello sta, sì, a Roma, non è che può fare chilometri per andare a Firenze. Allora a quel punto. 25 euro l'ora. Ma sì, no, ma al massimo deve trovare gente di Roma. Popolo di Roma, aiutate Parenzo a non fare lezioni di scuola guida, perché non vuole scucire un euro. Dice che 25 euro mezz'ora di scuola guida, siccome deve fare 10, 20, 30 lezioni, sono troppi, il signorino. casino, capito? Vabbè, dai, ci sentiamo lunedì, ci sono un sacco di cose da dire, da fare qui, dobbiamo finire stasera. Non mi va di finire, sai, stasera, Davide? Sai che non mi va di finire, questo se n'è andato già. Sto coglione se n'è andato. Se n'è andato questo coglione, ma veramente se n'è andato. Che coglione, guarda, veramente un coglione, cioè. Se n'è andato, c'è uno dove dare i saluti, eccetera, se n'è andato. Se n'è andato! Vabbè, ciao. Dovete andare su cuffiedoro.it e votare 24 mattino, va bene? Così gli amici, amici, nemici, amici serpenti della zanzara verranno schiacciati sotto il tacco di 24 mattino, ok? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Agli ascoltatori di Milan, non votate il panettiere dell'informazione, vota Cruciani, il puttaniere dell'informazione. Radio 24, la passione si sente.